che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Il numero uno di questa sera, il numero uno di questa sera, caro David, tu non lo sai perché sicuramente non hai studiato, come al solito, no, sicuramente non hai studiato. Per me è Beppe Grillo, comunque. Sì, Beppe Grillo, adesso lo sentiremo, sta facendo uno show pazzesco al Senato in cui parla di qualsiasi cosa a rotta di collo, senza fermarsi, passando da un argomento all'altro. È molto arrabbiato, signor Grillo, ma il numero uno è un deputato di Scelta Civica. Un deputato di Scelta Civica, il signor Mariano Rabino. Tenete bene a mente, tenete bene a mente. Rabino con una B, però. Una sola B, no due B. Non è Rabino. Perché, non cominciare con le tue solite cose. Con no, una B. Non c'entra niente questa cosa. Questa volta gli ebrei, cioè non c'entra niente. No, lo dico a chi ascolta, con una B. Con avanti. Una B. Mariano Rabino. Avanti. Classe 1970, più giovane di me, 4 anni più giovane di me, dunque ha 43 anni, 43 anni. Mai confessione fu più chiara, più netta, una confessione pazzesca, fuori onda, naturalmente fuori onda. Cioè, sentite da prima, sentite. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio. Caro amico, era a TGCom 24 insieme a Ernesto Carbone, deputato del Partito Democratico, che giustamente stava zitto, rideva e stava zitto, non proferiva parola, non proferiva parola, signor Carbone. E Mariano Rabino invece, incauto, l'incauto Rabino, diceva: ma una signora mi ha chiesto come mai Roma, beh, c'è la gnocca e il tempo. Ma non si è fermato qui, sentite. Guarda, io in 5 anni a Torino, in consiglio regionale, non ho visto la gnocca. Ero nel PD io. Non ho visto la gnocca che ho visto qui in 6 mesi, in 5 anni. Signor Mariano Rabino, Scelta Civica. Scelta Ma magari civica. Non pensava di essere in onda. Beh, forse, questo no? Non c'è dubbio, altrimenti non l'avrebbe detto. Le osservazioni acute di David Hai Parenzo. Visto? Ma te Hai credo, visto? Ma certo. Hai visto? Scusa, ma che osservazioni sono? Certo che non pensava di essere in onda. Magari infatti, ma infatti è un fuori onda. Tant'è che è un ma fuori io onda. Oggi inaugurerò le cosiddette, no? Le cosiddette cose apparentemente scontate. Ma andiamo avanti. Il trionfo della Biancofiore in Trentino, ecco, Alto Adige. Io questo, ecco, aspetta, io questo aspetta, volevo. Aspetta. Prima delle elezioni, Forza Italia più Lega hanno fatto il 3-4%, una cosa di questo tipo. La signora Santanchè, insieme alla Biancofiore, pochi giorni prima delle elezioni, la Santanchè diceva: intuizione. Senti. Sì, assolutamente sì, è stata la intuizione di Micaela Biancofiore, che aveva capito che si andava in quella direzione. Direi che Forza Trentino come Forza Alto Adige vanno nello spirito di Forza Italia, con Silvio Berlusconi il nostro leader e soprattutto capo del nostro movimento politico. Azzeramento quasi totale di Forza Italia, di PDL più Lega in Trentino Alto Adige. La cura Biancofiore. Brunetta scatenato questa mattina da Minoli dice: Vespa è come Fazio, se sono tanti 5 milioni, sono tanti pure 6 milioni per Vespa. Bruno Vespa guadagna 6 milioni di euro in 3 a 6 milioni di spiccioli. Va bene invece per è lui. È come Fazio. Come, cioè? Inaccettabile. Inaccettabile. E se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Poco prima, da Belpietro su Berlusconi. Chi sarà il candidato del centrodestra? Si fa il nome di Maria Berlusconi. Berlusconi, Berlusconi Silvio, Silvio Berlusconi. A lei non crede all'ipotesi della figlia del cavaliere? Berlusconi Silvio, Silvio Berlusconi. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerà. Poi non si capisce. Alfano dice Berlusconi è il leader e Forza Italia va avanti, contraddicendosi un po'. L'ha detto oggi, sentite. Non è partita una raccolta di firme in vista del Consiglio nazionale, ma so bene quale sarebbe la prima frase di qualunque documento io dovessi trovarmi a sottoscrivere, perché sarebbe il riconoscimento della leadership di Silvio Berlusconi. In dubbio non è questo, e l'oggetto del dibattito non è neanche il nome di Forza Italia, che richiama anni bellissimi. Oh, c'è anche Cicchitto che dice che la Forza Italia, la nuova Forza Italia è un partito estremista, un partito estremista. Bah. Ma fino all'altro giorno con chi stava Cicchitto? Era il capo degli estremisti di Forza Italia, signor Cicchitto. Comunque mi dice, vedi come cambia tutto, mi devo essere d'accordo con Cicchitto. Quelli che salgono sul carro dei vincitori, sentite Franceschini che da Renzi dice naturalmente vabbè, voterò per Matteo, abbiamo una storia simile. È il naturalmente che preoccupa. Naturalmente voterò Renzi, tutti i candidati sono rispettabili, ma quando si va a votare si sceglie un candidato. Peraltro anche in questo io e Matteo abbiamo un percorso simile, perché si vota per la terza volta a segretario del Partito Democratico. La prima volta tutti e due abbiamo votato per mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta. Qualche grillo sparso, ma il mondo in 15 secondi, vogliono farmi spiegare il mondo, non sono adatto ai tempi televisivi, sentite. Che cos'è? Non ce l'ho mica con Faccio, non ce l'ho mica con Floris, non ce l'ho. Ce l'ho col sistema che è marcio. È marcio, completamente marcio. Quando facciamo un'intervista, mettono la coda alla fine, poi montano magari 10 minuti. Io no, io sono un monologhista. Io ho bisogno di, se devo esprimere una cosa come questa, con enorme difficoltà, ho bisogno di tempo. Non la posso dire in 15 secondi, mi dica come va il mondo. E vaffanculo, come va il mondo in 15 secondi. Non sono più i miei tempi televisivi quelli lì. Io sono sempre disponibile alla televisione, ho detto venite, lo facciamo in diretta, mi intervistate, ho fatto interviste in tutte le televisioni. Poi dice che in Valpadana si vive 3 anni in meno, perché lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lui aveva ragione 10 anni prima, che il fracking, là, le faglie, lo sapete, causano i terremoti, le infiltrazioni, là, no, il fracking, le perforazioni causano i terremoti. Poi dice sono un populista pregiudicato. Io sono venuto qua mica per fare una conferenza stampa. Io non ho questa taratura culturale. Io sono un ex comico populista. Tenete presente che sono un populista, demagogo, sono anche un pregiudicato. Cioè, quindi non posso neanche entrare in certe situazioni. Torniamo a Firenze, dove c'è stata la kermesse di Renzi, perché a un certo punto è intervenuto un giornalista, non so come definirlo, sì, insomma, uno che fa televisione, che si chiama Piff, signor Piff. No, è un bravissimo Piff, certo. Piff, appunto, lo vedi che non lo sai definire nemmeno te. Piff, uno che fa televisione. Un attore, vabbè, quello che è, chi se ne frega. Che se la prende con un signore che abbiamo collegato e che ha vinto le elezioni provinciali del Partito Democratico a Enna. Sentite. Ora io mi chiedo, e lo ripeto, sarò retorico, scusate, ma come, ve lo dico alla siciliana, ma come minchia fa il Partito Democratico ad avere uno come Grissa Fulli? Il Partito Democratico indirettamente era il partito di Pio La Torre. Pio La Torre. Epifani, leggiti la biografia di Pio La Torre e getta a calci nel sedere Crisafulli. Ancora su Crisafulli. Crisafulli, prima di candidarsi alle elezioni provinciali come segretario di provinciale di Enna, perché alle nazionali non si può, il PD ha detto no, però le provinciali sì, in Sicilia sì, no? Lui disse: io a Enna vinco col maggioritario, il proporzionale e con il siamo qui 800 24 00 24, e con un grande plebiscito, caro Parenzo, Vladimiro Crisafulli, che è collegato con noi, ex senatore del Partito Democratico e il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Ti è Crisafulli, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Alla faccia di chi non vuole. Scusi, ma lei lo conosce il signor Piff? Signor Piff? No. Non lo conosce, eh? Assolutamente. Era molto applauso. Posso assicurare che non è così noto come lui pensa di essere. Non è così conosciuto, dice lei? No. Cioè, Enna, nessuno lo conosce. Non lo so, io lo so a Enna, ma non credo che sia molto conosciuto, anche fuori. Vabbè, però ha preso grandi applausi lì da Renzi, eh? Ah, le battute sono simpatiche, ci mancherebbe altro. Cioè, lei dice, ha fatto delle battute. Io credo che una battuta del genere avrebbe applaudito. Una specie di comico, dice lei? Cioè. Beh, credo di sì. Assomiglia più a uno sketch comico che non alla realtà. Io ma pensavo che sì, ci dessero un contributo per risolvere i problemi dell'Italia, non per fare battute. Però ha citato la Torre, ha detto che Crisafulli dovrebbe essere preso. Ma lui neanche sa chi è la Torre. Ah, non lo sa nemmeno. Io, no, non lo sa, perché io ero segretario provinciale con la Torre. Ma poi ha e detto raccoglievo le firme per impedire i missili a Comiso. Quando fu ammazzato Pio La Torre. Ma poi questa gente che si sciacqua la bocca citando personalità sacra del mondo della sinistra dovrebbe prima capire chi erano. Sì. Poi dice anche che lei dovrebbe essere preso a calci nel sedere da Epifani, fuori dal Partito Democratico, a calci nel sedere. Così dice. Venga Enna, vede se ce la fa a prendere 2750 persone a calci. Che sono quelli che l'hanno votata, dice lei, Sì, perché guardi, questo stile che non si rispetta neanche chi vota. Perché il problema è quello che si pensa, non quello che si vota. La democrazia è un patto opinabile. Poi ci sono argomenti di cui non si ha più memoria, per cui si dicono cose false, come sono state dette ieri sera, false. E io credo che tutto questo non possa far parte del. Però Renzi rideva là, sorrideva, nessuno. Esatto, la battuta è simpatica. Poi Renzi sorrideva, certo, qualcuno è venuto a chiedere i voti per Renzi, io gli ho detto di no. Io non so se avesse sorriso, se avesse detto che. Cioè, non ho capito, qualcuno è venuto a chiedere i voti per Renzi, ma a lei? A me, sì. Ma chi è venuto per Renzi a chiedere voti? I dirigenti dell'area Renzi. I dirigenti siciliani dell'area Renzi? Sì, sì. Cioè, hanno cercato di. Hanno cercato di. Sì. E lei che. Non ho nessun timore a dirlo. E li ho pure invitati a Enna a discutere di questa cosa. E lei gliela dà di questi voti o no? No, io ho fatto un'altra scelta, che era quella di fare il segretario provinciale. Sì. E guardare alla vicenda più da arbitro che non da. Per cui lei alle primarie chi vota molto, io vuol dire che mi costringeranno a votare per Cooper. Lei dice se continua. Una volta che non vogliono io faccia l'arbitro, vuol dire che farò così il giocatore. Cioè lei sta minacciando tra virgolette, lei dice. No, non sto minacciando, sto decidendo. Sta decidendo. Dunque lei voterà per Cooper? Sì. Voterà per Cooper. E nonostante Cooperlo, non so cosa pensi di questa mia decisione, voterò per Cooper. Cooperlo dice tra l'altro che l'ha un po' rinnegata, perché dice io non ho scelto i candidati. E questo è vero, non l'ha scelto lui. E dice anche. Ma io quando mi sono candidato non ho mica detto sono il candidato di Cooper. E ha detto anche avrei fatto un'altra scelta, non quella di Crisafulli. Probabilmente l'avrebbe fatta, non lo so. Però adesso lei dice io voto, i miei voti vanno a Cooperlo. Ma io non avevo deciso di votare Cooperlo. E invece. E visto che ci tengono molto che io lo faccia, vuol dire che lo farò. Ma tutti quanti rinnegano i suoi voti? Cioè lei è un trionfo. No, non li rinnegano quando non glieli do. Oppure rinnegano in pubblico magari? Non lo so, in ogni caso, probabilmente in pubblico. Però, scusi, mi spieghi, chi è che l'ha cercata? Per vecchi, guardi, questa cosa è una cosa talmente ridicola e obsoleta. Lei lo sa che quanto tempo è passato da quando Si ricorda questa vicenda? Sì, beh, mi ricordo. Sono passati 13 anni. Ah, ma la vicenda lei dice del. Sì, quella famosa vicenda. 13 anni. Dell'incontro in quel bar con cosa? Due mesi. Sì, in albergo. Il problema non è quello che fa la procura, il problema è quello che serve al momento. Io da allora a ora sono stato eletto 3 volte. Sì. Al Parlamento nazionale, al Senato, al Parlamento regionale. Queste cose non contano, perché oggi serve dire questo. Scusi, io siccome non mi arrendo, non me ne frega niente quello che dicono loro, so semplicemente che non sono disposto ad accettare lezioni da un piff qualunque che non sa neanche di che cosa parla. E nemmeno da Renzi, immagino. E nemmeno da Renzi. Ma Renzi le sta simpatico o no? La verità non ha detto niente su questa vicenda. Per cui. Scusi un attimo, ma. Io sono arrivato a sorridere, ma io credo che la risata non sia un problema. No, ma chi è che è venuto a chiederle per conto di Renzi voti? Faraone, qualcuno dei Renzi? Qualcuno di questi signori che lo sono rappresentano in Sicilia. Cioè hanno detto perché non ci appoggi? Perché non ci aiuti, dai, c'è una mano. Poi appena hanno capito che io non ero più disponibile si sono cominciati a grattare le spalle. Che vuol dire grattare le spalle? Ma allora bisogna trovare un sistema, perché Crisafulli comunque fa paura, perché se si muove un minimo di consenso lo esprime in Sicilia, mette in campo forze, cose. E adesso Renzi deve aver paura, perché lei ha detto io voto Cuperlo. Sì. Traffico. Grazie a loro voto Cuperlo. Torno subito. Grazie a chi non si capisce però, grazie a Piff, grazie a chi? Questi che hanno fatto queste iniziative. Cioè grazie a Piff lei vota Cuperlo. Grazie a Piff, grazie a Faraone che ha fatto le sue dichiarazioni, grazie a tutti questi. Cioè prima mi chiedono i voti e poi invece mi trattano come una merda. Avevo deciso di starmene buono, starmene fermo. Allora bisogna fare in modo che questi voti non vadano ad altri. E io invece ho deciso di fare così. Traffico, torno subito, Crisafulli, torno subito. La zanzara. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Sei ancora in casa, Simo? Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00 24. Caro Parenzo, iniziamo col botto questa sera con Vladimiro Crisafulli, che è stato senatore del Partito Democratico, è stato cacciato praticamente per indegnità come impresentabile dopo aver vinto le primarie lo scorso febbraio. No, ma infatti ti ricordi, no? Tutta la cosa. Io appoggiavo Crisafulli a spada tratta, te lo dico subito. Mi ricordo. Io all'ottimo Vladimiro, perché noi ci diamo detto Mirello. All'ottimo Mirello, non ci facciamo mai visti per la verità. Ma all'ottimo Mirello dico che però quel popolo della Leopolda che applaudiva il signor Piff lo voleva prendere a calci nel sedere, quella parte del PD. A lui che gli frega. No, mi dispiace per lui, ma quel popolo del PD lì lo vorrebbe prendere a calci nel sedere chi ha applaudito. Questo è un cosa vuole rispondere a quella parte del PD che lo vorrebbe prendere a calci nel sedere, per citare Piff. Crisafulli, mi dica. No, dico, Parenzo sostiene che c'è una parte del PD che la vorrebbe fuori. Io a calci nel sedere, ma quelli che hanno applaudito sono del PD, mica solo del bubù, del grillo, come si chiama lì? Come? Che siano del PD non lo so, io non ho visto nessun simbolo di partito, per cui che siano del PD lo dice lui. C'era anche il signor Epifani, c'era Epifani là, il segretario. Allora non è il popolo del PD, c'era Epifani che condivideva. Non condivide adesso quella cosa lì, non so se la condivideva. E allora perché dice che comunque, ma lei, Crisafulli, vuole tornare in Parlamento o no? No, assolutamente. Non me ne frega proprio. No, assolutamente. Ma Epifani non guarda, se io avessi voluto tornare in Parlamento, avrei accettato le proposte che mi hanno fatto altri partiti in quella vicenda. Come io sono una persona seria, ho legato la mia vita all'appartenenza al mondo della sinistra, io non ho motivo di... No, ma magari ci vuole tornare col PD in Parlamento. No, ma io non ci voglio tornare proprio, io oramai l'ho fatto quello che dovevo fare. Se mi fosse stata data la possibilità di tornarci per l'ultima volta. Vabbè, l'ha fatto, però se è tornato in campo. Però lo faccio bene, quando lo faccio il parlamentare io lo faccio bene. No, d'accordo, però. Non sono come tanti che vanno lì e si fanno orientare dai telefonini su quello che devono fare. Io lo faccio orientare dai cittadini in carne e ossa. Però scusi Crisafulli, ma lei questo Renzi non sembra un po' un Berlusconi in piccolo, non sembra un po' come no, mi è simpatico, devo dire. Ah, lei è simpatico. Non dice niente di interessante, ma mi è simpatico, lo dice bene. Come? Non dice nulla di interessante, però lo dice bene. Scusi. Tu lo sai che Crisafulli una volta ha detto: "Enna, io vinco col maggioritario, col proporzionale e anche col sorteggio". Si è pentito di quello che ha detto Crisafulli, no? No. Io mi sono pentito. No, di questa frase qua, è vera o no? È ancora così? Enna, lei vince con tutto, con maggioritario, con proporzionale, col sorteggio. Io sono uno che è apprezzato dai cittadini perché lavoro 24 ore al giorno per la mia provincia. Mi occupo dei problemi politici, non sono parlamentare e continuo a seguire le questioni. Sì. Non mi sento in difficoltà, cioè la politica la posso fare anche senza fare il parlamentare. No, vabbè, ma quello. E questo non c'è problema, i cittadini lo apprezzano, io sono qua, sono a disposizione. Comunque possiamo dire che il popolo di Enna del PD voterà in massa per il signor Cuperlo alle primarie, si può dire o no? Il popolo di Enna voterà per Cuperlo, non so se lo voterà mai. Vabbè, lei darà questa indicazione. Questa indicazione. Io darò questa indicazione. Vabbè, se tanto mi dà tanto, se no, più, so, sai, può essere che io sia per la prima volta smentita dal popolo, però non mi pare complicato. Le pare difficile, diciamo. Senta, secondo Travaglio lei è l'amico del boss, cioè così l'ha definita, l'amico del boss. Chi è che mi ha definito? Travaglio, c'è cioè un titolo di una cosa, Crisafulli, l'amico del boss. Travaglio è quello, sì, che ha sostenuto l'evoluzione civica. Ingroia, il signor Ingroia, sì. Beh, guardi, fino a quando Travaglio parla male di me vuol dire che abbiamo speranza di vincere le elezioni. Addirittura? Che appena ne parla bene, a chiunque lui sostiene le elezioni le perde. Vabbè, adesso magari qualche volta ci... con Grillo per esempio ci ha preso, anche se poi... No, non l'ha sostenuta Grillo. Beh, insomma... Lui sosteneva... a Ingroia, no, non cambiamo le cose, un po' Ingroia un po' in... Di Pietro ora si sta adeguando a Grillo, è un'altra cosa, un po' Ingroia un po' Grillo sosteneva in realtà, tutte e due insieme. Grillo lo sosteneva molto poco, lo sosteneva Di Pietro. Ma lei che idea ha di Grillo, che è uno che guarda al popolo come lei? Grillo guarda al popolo, beh, è un piccolo problema, che qual è? Io non condivido assolutamente la demagogia e il populismo. Cioè, il fatto che sono tutti uguali, io non sono uguale ad altri, io sono una cosa diversa, credo, sì, che l'appartenenza sia un valore, sì, perché è figlio di tanta storia, di tante lotte, sì, di tante battaglie, e a me l'idea che non si deve più puntare sull'appartenenza è una cosa che mi convince. Senta, però io le dico una cosa, non mi convince se lo dice Grillo, non mi convince ancora di meno se lo dice Renzi. Ma l'ha querelato il fatto, poi alla fine hanno chiesto non so quanti come minuti. No, sì, sì. Ah sì, sta andando avanti la cosa. Quanti soldi, sì, chiede? Guarda, non sono io che decido, la magistratura ha i suoi tempi, io sono qui buono che aspetto. Comunque è una cosa incredibile, Crisafulli cacciato dal Partito Democratico, cioè cacciato, cioè non candidato a febbraio, caro Parenzo, torna come segretario provinciale del PD, c'è qualcosa che non funziona, cioè hanno sbagliato quelli di prima oppure... Cioè... Credo, ha ragione Crisafulli allora. Credo fine... che hanno sbagliato quello di prima. Cioè ha ragione lui alla fine, cioè la gente ha votato quelli del PD, non è che poi uno può fare tante discussioni sulle tessere, le cose, le iscrizioni. No, a Enna non c'è neanche una discussione. Appunto. A Enna non c'è neanche un accenno di discussione. Hanno votato tutti per... Nonostante ci fosse un mio antagonista, candidato, che sì, esprimeva l'aria, lo sosteneva l'aria Renzi. Sì. E nessuno ha sollevato obiezioni, peraltro qui le tessere, sì, si fanno ogni anno, non si fanno solo ai congressi. Ma lei lo vuole querelare questo PIF, no? Sì, come no. Ah, lo querela, no, PIF? Sì. Perché? E perché? Perché ha detto cose false. Ah, lo porta in tribunale? Sì, lo porta in tribunale, se la procura capisce che... sono cose fatte quelle che ha detto, ma io non credo che avrà difficoltà, perché io ho tutti gli elementi per dimostrare che lui ha detto cose false, simpatiche per una serata, per una battuta, però ma lei dice sicuramente false, però deve pagare, le dice lei, però cose false. No, io non ho problema, potrò fare un risarcimento danni e i soldi li devolverò al mio partito. Al partito addirittura? Sì, visto che non avremo più finanziamento pubblico, vediamo se possiamo arrivarci con quello privato. Grazie Crisafulli, a presto, grazie. Giornale Radio, grazie. La Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. La Zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Cucù, scusate se vi ho disturbati. E dorme in un tombino. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Signor Mughini, ecco. Ma ci sarà anche quello che ha detto che mi ama, scusa, ma sempre queste contumeli cucù, e cucù. Ma Parenzo, l'ho pagato o lo fa gratis? Cucù. Pagato come il tuo cane che porti nei ristoranti. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Scusate se vi ho disturbato. Poi studio spaccato. Quello per il quale sono. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Sì, disturbato, poi però hai sfasciato lo studio, amico mio. Però diciamo la verità, adesso parlando di cose veramente serie, se no parliamo sempre di cazzate, sì. Parlo di cose serie, ma vi pare possibile, adesso la dico forte scatenando l'inferno, vi pare possibile che un ragazzo, detto con grandissimo rispetto, sapevo, vi assicuro, no, un grandissimo rispetto, no, perché ovviamente uno è morto, per carità, appunto, no. Vi pare possibile che un non ragazzo dirlo, di... ti voglio tutelare, no, lo dico, non dirlo. Lo dico, vi pare possibile che un ragazzo di 21 anni si butti giù da un palazzo, sì, da un balcone, sì, perché ci sono gli omofobi, sì. perché sì. c'è Giovanardi, sì, che ne so, un fiore sì. o qualcuno. Sì. Vi pare possibile sì. al voi? Sì. Vi pare credibile? Sì, poverino, vi sì. pare credibile? No, sì. con tutto il rispetto, sì. uno può immaginarsi. No, è così, no, sì. dai, lo su. Ha scritto lui. Nessuno c'è una ci violenza inaudita. Ma che c'è? Non nessuno puoi nessuno ci può intanto credere, non dai. Puoi dirlo tu. Intanto non puoi no, dirlo. Ma io non ci credo. Io non ci credo. Io non ci credo. Chi se ne frega? Che ti vuol dire? Ma infatti chi se ne frega? Non ci credo. È morta che ha no, ma io rispetto i genitori. Che è arrivata a quella decisione di uccidere. Ma non ci credo. Non ci credo che si butti giù per Giovanardi. Sì. Lo ha detto, lo ha dai. Scritto lui, non per Giovanardi, ma perché c'è un clima nel paese dove se anche alcuni politici. Ma non è vero, non c'è nessun clima! Non c'è nessun clima. L'omosessualità, ma... è chiaro che anche l'ultimo dei cretini. Allora siamo colpevoli anche noi. Allora siamo colpevoli anche noi. No, io no. No, allora siamo colpevoli anche noi. Siamo colpevoli anche noi, che facciamo parlare il professor Tormina, tutti gli anti-gay, anch'io devo essere responsabile. Allora anch'io sono responsabile della morte di questo ragazzo. Ma non diciamo stronzate, dai, su. Intanto lo ha scritto lui, quindi quello bisogna. No, ma io rispetto quello che ha scritto, però non ci credo. Però non ci credo. Vabbè, ho capito. Ho capito, però non ci credo. Non hai mica un sondaggio, ci credi, non ci credi. No, ma non ci credo, non ci credo. Uno fai male, perché devi rispettare il dolore. Farò male, ma io rispetto il dolore, però non ci credo. Dentro il mio giardino. Silenzio la vecchia! Beh, ho capito, adesso silenzio la vecchia non c'entra. C'è la mia. Titoli, e vabbè, sì, ho capito, sì, questo, però... ecco, infatti Cucciari non capisce un cazzo, proprio insensibile. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Milioni di telefonate intercettate dagli americani. La Germania pensa ad una commissione d'inchiesta. L'Italia non parla di spionaggio, ma solo di monitoraggio. Grillo arriva a sorpresa al Senato, attacca Napolitano. Abbiamo problemi con l'anziano signore, chiediamo l'impeachment. Alfano frena, nessun documento degli innovatori. Berlusconi resta il leader e Marina smentisce, ancora una discesa in campo. Io resto in azienda. Le amministrative in Trentino Alto Adige vanno bene sul Tirolo ai democratici, male invece PDL 5 Stelle, sondaggio TG3 sul voto nazionale. La protesta dell'Alcoa sbarca a Roma, vertice interlocutorio al Ministero dello Sviluppo, gli operai insoddisfatti piantano le tende. Scappavano dal Niger attraverso il Sahara su un camion, il guasto al motore, la morte di sete nel deserto, 35 migranti, tanti bambini. Al nome di un santo che si celebra oggi, la tempesta che sta flagellando Gran Bretagna del sud, nord della Francia e anche l'Olanda. Marina, Marina, Marina, mi voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. In politica in particolare il mai non esiste, per cui io ci spero ancora, perché sarebbe bello ed eclatante, sarebbe forse il meglio che potremmo schierare, un duello Marina Berlusconi contro Renzi, non so chi ci sarà, per cui io continuo a sperarci. Marina, Marina, Marina smentisce, l'altra figlia di Berlusconi, Barbara, la signora Barbara dice che quelli del PDL non hanno idee politiche, sono attaccati solo al padre per la poltrona e per il potere. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Oh, è tornato anche Bossi, che vuole ricandidarsi alla segreteria della Lega, Parenzo, e dice anche che... Aspetta, dice anche che... Che? Non ho capito. Che sei un cretino tu, quella ancora viva quella Zanzara lì. Beh, sì, ancora viva. Che rompe i coglioni al sud, devi tornare. A Gela devi andare. Ma no, a Gela non ci sono. Devi andare a ronzare, devi andare a ronzare sopra quel Crisafulli là, quel Vladimir. Vai lì, vai a Gela, vai a Ma Enna, non voglio andare a Enna. O vai a Raccalmuto, vai a far culo, se no come al solito, Crociani. Comunque Renzi dice che i figli bisogna lasciarli stare perché li massacrano. Sì, questo è giusto. Berlusconi sembra intenzionato a candidare sua figlia, lei cosa ne pensa? Io lascerei perdere i figli perché li uccidono, è meglio che ci ripensi. Bastiamo basta lui a far politica, c'è bisogno della figlia. Marina, Marina, Marina, mi voglio più presto sposare. Lo vogliamo sentire un po' di... Però un lucido, po' di... Sì, sì, molto, molto freschissimo, freschissimo. I figli, no? il suo hanno un po' impallinato, non è detto che tutti i figli. Beh, insomma. Sentiamo Bossi ancora, eh? Sentiamo Bossi. Anzi, no, Grillo al Senato, Grillo scatenato al Senato. Per esempio dice che grazie al Movimento 5 Stelle non è nato un partito nazista. Adesso questo francamente mi sembra un po' troppo. L'ha ripetuto e non è la prima volta. Perché si stanno ricostituendo partiti fascisti, nazisti, vediamo la Norvegia, vediamo la Grecia, vediamo l'Olanda, vediamo l'Ungheria. Quindi dove non stanno nascendo, vi ripeto, ci tengo a dirvelo, è in Italia. In Italia, dove abbiamo inventato il fascismo, dove abbiamo inventato questa roba mostruosa, qui non sta nascendo nulla perché c'è il Movimento 5 Stelle e dovreste riconoscercelo. Ma adesso non è che dobbiamo riconoscere a Grillo il merito di aver impedito la nascita di un partito nazista. Ma il ragionamento sai perché è stupido? Perché ammette che lui prende i voti di quei populismi lì. Adesso tu mi dirai troppo serio, che palle. Però lui ammette, siccome il fascismo si fonda sul populismo più bieco, lui ammette di esserci lui a fare argine a quel populismo, quindi di intercettare quel voto lì. E questo è il però punto. Sai che ti dico, io cerco di appassionarmi. È troppo intelligente questa cosa. Cerco di appassionarmi. Cioè, poi gliela ripeta, perché no, non la ripetere. Cerco di appassionarmi. Ma proprio intelligente. Ho detto una roba proprio così, mi è venuta sopra. Che cazzo adesso? Cerco di appassionarmi. Ma guarda, hai detto una roba intelligente. Sì, hai detto una roba intelligente. Cioè, sì. Analizziamolo un sì, attimo. Sì, ma ho capito, l'hai già detta. Non perché c'è bisogno di collegare con lo storico Villari, il professor Villari. No, non c'è nessuno storico. Invece io ti voglio far risentire, perché io cerco di appassionarmi alle vicende di Barbara Berlusconi, che dà delle bastonate ai dirigenti del PDL, a Marina Berlusconi che per l'ennesima volta smentisce, a Grillo che impazza al Senato e ne dice di tutti i colori, lo faremo scontare più avanti. Però resta una cosa per me, una pietra miliare, il numero uno, questo deputato lo voglio far risentire perché è veramente il numero uno, Mariano Rabino, il signor Mariano con Rabino, scelta civica, Rabino con una B, non Rabino, perché sennò tu ultimamente stai stai a marca male tu ultimamente, come dicono a Roma, stai classe a 1970 male. Fuori onda da TGCO24, ripreso da Striscia la Notizia, lui a Roma soprattutto per la gnocca e perché c'è il bel tempo. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. Giustamente il povero Ernesto Carbone, deputato del PD Renziano. Bravo deputato Renziano. Vabbè, bravo, hai fatto la tua solita opera di lecchinaggio. Bravo deputato. La tua solita slinguata Renziano. Quotidiana. E lì è slingua. No, però, slingua, scusa, essendo slingua, fuori onda. Slingua, però, slingua. No, ma non slingua. Specifica, perché essendo fuori onda, uno è stato un furbotto, l'altro è stato un pirla, però, scusami. Beh, pirla, super pirla. Cioè, mai vista tanta gnocchia in vita mia come in questi sei mesi a Roma, rispetto e lui a quando. È di scelta civica. Sì, scelta civica. Vabbè, non è che sono tutti pii e cattolici. Questo veniva dalla Margherita, poi ha fatto il PD, poi ha fatto Montezemolo e è stato candidato con scelta civica. Mi piace la gnocca, questo non è un reato. No, però, insomma, sai, una trasmissione così davanti a tutti non è bello, fuori onda non è bellissimo, eh. Well, now, Mr. Mosquito, is there not? Guarda, io in 5 anni a Torino, in consiglio regionale, non ho visto, sì, non ho visto la gnocca, ero nel PD io. Non ho visto la gnocca che ho visto qui in 6 mesi, in 5 anni. Eccoci, Raffaele da Cremona. Buonasera, Raffaele. Sì, buonasera, salve. Dica. Volevo spiegare chi era Pippo, visto che... No, ma non è il caso. No, bravo. Non ce ne frega niente. È il caso invece, perché è un giornalista con le contropalle, non è mica un attore come avete detto prima. No, ma non ho detto attore, ho detto un videomaker. È stata una iena, è un giornalista. Vabbè, ma ha fatto il anche l'attore. Io lo conosco benissimo, è un amico ed è molto bravo, confermo. Vabbè, allora... meno male, no? Perché prima ho sentito dei toni un po' così, no, anzi... troppo rispettosi. Ma rispettosi, è un attore. Ha fatto tante. È uno ma che poi è non eclettico. Bisogna qui. Qual è il ma punto? Ma è vero, scusi. È giornalista, attore, fa questo programma su TV molto Raffaele, divertente. Qual è il problema? Bravo. Il problema è che mi è piaciuto come nominavi il no pif con un po' di spocchia. Insomma, ma quale spocchia? Ma chi dice nessuna spocchia? No, sbagliatissimo. Però... Luca da Modena. No, io lo citavo solo e esclusivamente per quella roba lì su Crisa Furli. Il resto in questo momento non me ne porta niente. Luca da Modena. Buonasera dottor Cruciani, io volevo dire invece viva i PIF, viva i Cruciani, viva i Parenzo e viva chi ha il coraggio finalmente di dire le cose che non vanno chiaramente, perché veramente siamo ostaggio di un abbraccio mortale fra sindacati. Però io dico una cosa, ma lasci perdere adesso i sindacati, la politica non c'entra nulla, Crisa Fulli è stato per quella vicenda lì citata dal signor PIF alla Leopolda. Dico troppe cose, troppo complicate, la gente che sta in taxi non capisce nulla, giustamente piffa la Leopolda eccetera, comunque lasciamo perdere, per quelle cose lì è stato prosciolto, ha capito o no che è stato prosciolto? Ma il tema non è questo, è stato prosciolto, lui è stato attaccato per quello, il tema non è questo, quello che capisce anche chi sta in macchina in questo momento è diverso, cioè quella parte di renziani e quel popolo del PD che là ha applaudito a che il signor Crisa Fulli, questo del PD, venga presa a calci nel culo. Venga presa a calci nel culo perché si ricordano di quell'accusa che gli era stata fatta. Bene, Borsa, stai zitto, punto. Borsa. Dai. La zanzara. Io da Vis Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Che resti certificata questa cosa. Come deve restare certificata la frase di Giampiero Mughini? Deve restare scolpita. Però c'è anche altro. Sì, certo, molto altro. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? E io rispondo solo così. Ma viene detta anche con una certa grazia. No, la cosa bella. No, sì, esatto, questo vuol dire. L'eleganza. E anche la leggerezza, c'è proprio, no? Non comunque, c'è acrimonia. No. Tu sai cosa vuol dire acrimonia? Certo. No, si può usare. Si può io usare. Da oggi voglio parlare solo forbito. C'è un Gasparri scatenato, c'è un Gasparri scatenato su. No, ma Gasparri. Su Twitter è scatenato. Se la prende con Barack Obama. No. Gli dice go. Gasparri contro Obama, no. Gli dice go home, spia il mondo. Scritto con l'H, però. Sì, no, go home, sì. Poi dice spia il mondo, vergogna, yes, we can. Poi dice se lo avesse fatto Bush tutti direbbero dimissioni, scatenatissimo. Beh, lo dicono anche di Obama. Ricomincia. Poi ieri era un giorno evidentemente in cui non c'era cazzo da fare, amico Gasparri. Era domenica. A Ferruccio De Bortoli. I bilanci della Rai stanno messi meglio di quelli di RCS. Su Fini lava i piatti al cognato e fa il vice Gaucci. Il numero uno era chiuso a casa con la moglie. È il numero uno. Donato da Varese, buonasera Donato. Buonasera. Volevo dire una cosa riguardo il ragazzo che si è ucciso, sì. Ragazzo omosessuale. Prego. Io penso che la colpa, anche esattamente in diretta, la colpa sia di tutti quelli che hanno creato quel salone di protezionismo verso gli omosessuali. In che senso, scusi? Non ho capito. Che anche Parenzo pensa che sia un responsabile. È come un bambino che è viziato dalla propria madre quando si sente un po' trascurato, è normale. Faccia che un po' di piange. Silenzio, Donato, faccia un po' di silenzio. Rispetti almeno una persona che è morta, che si è uccisa. Ascolta, silenzio, Donato da Varese. Faccia silenzio. Ma con le sue le analisi su perché si è ucciso sto ragazzo. Ma basta, su. Delle cose che dici, ma dai, abbia rispetto. Faccia silenzio, Donato. Cretino, abbia rispetto. Ma tu che ti credi che le persone ogni volta che scrivono qualcosa prima di ammazzarsi siano delle assolute verità. Mamma mia, è cretino. È un tema così sensibile, interviene Donato da Varese che dice no, ma è il clima di vittime. Ma non è la partita Inter Milan dove si commenta la palla che è entrata o non è entrata, è morto cretino. Un ragazzo cretino, appunto. Basta proteggere gli omosessuali. Basta, perché più li protegge come questa testa di cazzo che si chiama Parenzo. Basta. Beh, adesso che c'entra? È morto quello e lei dalla testa di cazzo a Parenzo. Gli omosessuali non vanno assolutamente protetti. Gli omosessuali sanno difendersi da sole. A te, Parenzo, sono capace di darti un calcio sotto la figa da ridurti. No, scusi, professore, non ho capito. Mi spieghi un attimo, professore. Poi è questa, basta, no? Proteggere gli omosessuali. Ma adesso che c'entra ci questo? Ci sono altre categorie da proteggere. Gli omosessuali non hanno bisogno, perché gli omosessuali occupano i posti più belli del mondo. Vabbè, non esageriamo adesso. È l'abisso della stupidità. Dove può arrivare l'abisso dell'intelligenza umana? Allora, Maurizio proprio. Costanzo era omosessuale. Visto, no, veramente Costanzo omosessuale. Ma io, ma io voglio dire, ma non risulta. Costanzo era omosessuale. Non risulta. Non risulta le cronache. Scemo cronico. E abbiamo visto dove è arrivato. Ma questo è matto cronico. No, ma io non sono omosessuale. Ma basta proteggere gli omosessuali. Proteggere chi? Ma lei ha famiglia, parenti in giro? È un ragazzo che si è ucciso, che ma porti rispetto, ucciso per qualsiasi ma porti altra rispetto stupidità. Ma parli di una cosa che è al suo livello, parli ma, di una roba che è al suo livello. Ma il discorso che io un livello ce l'hai, ma tu c'hai la bassezza. Ma parli di robe che sa, sei cioè niente. Una, ogni volta parli che di robe che sa, parlare, cioè niente. Sei l'esasperazione. Ma parli dell'oroscopo, nulla, di che segno zodiacale è lei, Donato? Di che segno zodiacale è? Ma parli dell'oroscopo, quello no, può, il tempo, parlare, le previsioni del parlare, tempo, l'oroscopo. Se tu devo parlare di questi problemi perché mamma tu sei responsabile. Mia, ma non arrampicarti, non arrampicarti. Ma sono responsabile Parenzo, non Donato. Sai, non indirettamente lo è. Vabbè. Non si può proteggere una categoria che ama un sessuale. Ma parla del dramma dei cani da tartufo, parla di cose che sai, c'è niente. Ad altre categorie, a questa testa di cazzo infinito che l'umanità si deve mettere a servizio Donato. Di altre categorie. Gli omosessuali parla Donato da Varese. Va bene, abbiamo capito, abbiamo capito benissimo. Restiamo a Varese, in provincia però. Gabriella, speriamo bene. Buonasera. Dica. Allora, io vorrei dire una cosina a Crisafulli su Piff. Crisafulli, informati sui tuoi nemici. Piff è uno che parla di mafia e ragazzi, cosa che tu e i politici amici tuoi per 30 anni non avete fatto. Lui ci mette la faccia, sì. Ma è andato da figli di magistrati uccisi, commercianti. Vabbè, uccisi. Sta girando, ha fatto un film, eccetera, benissimo. Esatto, no, ho capito, ma no, Gabriella. Il poeta Donato, veramente di classe. Scusa, Gabriella, abbi pazienza, sì, però il sì, problema sì, è uno solo. Signor Crisafulli, prende i voti, prende i voti. Non è che si può sentire dire da un attore, da un regista, eccetera, da un giornalista, quello che è, ma non lo dico in senso dispregiativo, lo dico perché non trovo una definizione precisa, ma va anche bene per lui che non trovo una definizione precisa, che uno deve essere preso a calci in culo dal Partito Democratico, lo stesso che poi vince un congresso provinciale del Partito Democratico. Vabbè, lei capirà bene che quello li fumano i coglioni, gli girano le palle, o no? Certo, e allora, assolutamente sì, il modo è stato sbagliato, però ha detto cose sacrosante. Ma sacrosante di che cosa? Una volta... Secondo me, se è stato cacciato già una volta. Ma non è stato cacciato, non è stato candidato. Non è stato candidato, non è che è stato cacciato dal Partito Democratico. Non è stato posto la questione politica. Non lo so, cos'è? Come mai? Chissà che dove li ha presi questi voti. Ma chissà, non è che i voti per quello vanno bene. Non capisco perché si mette in croce il povero Ma chi sta mettendo in croce? Nessuno. No, ma voglio dire, ha detto una cosa. No, io non metto in croce nessuno, però magari visto che questo nemico in più dovrebbe informarsi, che è uno che parla di mafia. Va bene, Gabriele, ho capito. Giorgio da Udine. Buonasera Parenzo. Dica. Volevo semplicemente chiedere un approfondimento, un vostro parere molto semplice, approfondimento. Ma molto rapido, riguardo al caos, chiamiamolo così, politico, chiamiamolo smottamento nel PDL alias Forza Italia. Sbaglio o l'Angelino Alfano dichiarò una ventina di giorni fa di essere diversamente berlusconiano, oggi appoggia in pieno, l'ho sentito poco fa dal titolo del TG3, che pare appoggi in pieno adesso Forza Italia di nuovo. No, non appoggia, ha detto che il leader è Berlusconi e Forza Italia. Ma sai qual è il problema di Alfano? Qual è? Alfano. Vabbè, Giorgio, Pietro dalla provincia di Isernia, su. Alfano è il problema di Alfano. Sì. Pronto? Dica. Cruciani, buonasera. Senta, io vorrei inaugurare il Basta Day. Cioè, qual è il Basta Day? Sono cittadino che non ne può più. Basta una politica corrotta, basta i giornalisti come Parenzo, come Ruffiani. Ma perché Ruffiani? Imbecilli, scusi, intellettuali, secondo me. Ma perché un imbecille intellettuale, Parenzo? No, scusi, perché? Perché, dovrebbe... perché è un intellettuale a servizio della casta. Quindi è un imbecille intellettuale. Vabbè, cioè, una persona capace, colta. Ma che ne so, Pietro dalla provincia di Serra. È come chi dà... chi serve il bene e il male. Quindi l'intelligenza. Vabbè, ma queste qua sono frasi dette così alla rinfusa, a casaccio, Pietro. Così. No, sono frasi di un cittadino che non ne può più di queste cose. Non ne può più. Basta lei, benissimo. Se lo fa da solo a casa lei. Lui dai serve. Lo fa soltanto a casa. Se mi ascoltano gli altri, penso che lo faremo in tanti. Vabbè, siamo stufi della casa. Sì, è stufo della casa. È un ruffiano, sarà lei. È un ruffiano dei Cruciani, quando le cose non gli interessano taglia subito. Ma cosa dovrebbe interessarmi? Basta casta, ma che è basta casta? Che significa? Ma come che basta casta? Ma lei si guarda in giro. Ma lei è frustrato, guarda che fa nella vita, Pietro. Che fa nella vita? Io sono un responsabile commerciale, non sono una persona frustrata. Sì, ma sarà frustrato, ci avrà qualche cosa che non funziona, secondo me. Qualcosa che non va bene, la fidanzata. È un altro imbecille intellettuale, come questo amico. Ciao Pietro. Un po' di grillo, dai, un po' di grillo di oggi. C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Io sono venuto qua mica per fare una conferenza stampa. Io non ho questa taratura culturale, io sono un ex comico populista, tenete presente che sono un populista, demagogo, sono anche un pregiudicato, cioè quindi non posso neanche entrare in certe situazioni. E allora se io non vado e noi non andiamo in di comune accordo dal signor Napolitano, che il signor Napolitano non è più, non fa più funzione di un presidente della Repubblica, perché non si può vedere di nascosto. La larga intesa l'hanno fatta in 3 di notte. Qui facciamo delle cose incredibili. Adesso si sono visti in 5 o 6 così a bere un tè per decidere il cambiamento della legge elettorale. Ma stiamo scherzando. Poi dice, attenzione, che io abito in Valpadana, 3 anni in meno di vita ho, 3 anni in meno, me l'ha detto Grillo oggi. Ma io non ci credo, a me che cazzo me ne frega. Allora vi dico, abbiamo bisogno di fare energia, continuiamo a fare inceneritori sulla salute della gente. Finalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto le cose che dicevamo nel blog da 10 anni, che in Valpadana si vive 3 anni di vita in meno, l'aspettativa di vita è diminuita di 3 anni per l'aria, finalmente si accorgono che l'aria fa male. Dai su, ma tu sei preoccupato, non abiti da queste parti tu, Parenzo, sei preoccupato per questa cosa di... Che l'aria fa male in Valpadania, queste cose qua, sei preoccupato o no? Lo diciamo da sempre, cioè? Da sempre, ma mia moglie è scappata di casa, i miei figli li ho chiusi da 5 giorni con le finestre chiuse, non c'è più ossigeno, hanno chiamato l'ambulanza, ma io ho detto, il web ha detto che c'è l'aria cattiva, l'ho chiuso dentro casa. È normale, in Germania lo fanno. Ma cosa fanno? Chiudono i bambini dentro le case, la Merkel, solo qui lo fanno. Ovunque. Ma veramente, scusi Grillo, ma non è vero. Mettono delle mascherine, chiudono la casa, non deve entrare dell'aria. Si muore. Inquina. Non è vero niente. Ma dite voi, disinformazione alla Confindustria. Bene, abbiamo con noi Iole Santelli. Buonasera. Buonasera a voi. Sottosegretario al lavoro. Sai che è un bel nome Iole. Iole è un nome antico. È un nome antico in realtà, un nome antico. Peccato che della nonna. Nome della nonna. Beh, sono i nomi che non si mettono più ormai, Non si mettono più. Ma si chiama proprio Iole oppure un diminutivo? No, nome di battaglia. Era proprio Iole. Sottosegretario al lavoro, lei ormai come si definisce? PDL o Forza Italia? Già questo è indicativo, signora Santelli. Guardi, io mi sono sempre continuato a definirmi Forza Italia anche quando si chiamava PDL. Ah, per cui veniva difficile. Gli faceva schifo il PD proprio allora la cosa più antipatica era chiamare al centralino della Camera, cioè? E dire mi passi Forza Italia, mi passa Forza Italia, poi io no scusi PDL, perché lei diceva Forza facile. Italia le veniva automatico dire Forza Italia facile. Ah beh certo, e quelli che facevano i cosi, i commessi poveracci ridevano Lei in tutti questi anni non ha smesso di chiamare quando chiamava il centralino? Forza Italia. Ma se le piace così. La diavola proprio è matta però, scusi tu. Infatti, no, per scema. Scusi una cosa, oggi stiamo domani un po' sull'argomento della decadenza. Ma chi è la decadenza? Ma no, ma non c'entra niente la decadenza, non sai niente, ma se domani non sai. Ma cosa? Il voto segreto, voto palese, che cosa? Quello voglio capire, ma certo. Beh, la giunta del regolamento, non è molto io non grave, ho capito perché se non c'è il voto palese, ma molto che grave. Molto grave, sarebbe normale, ma se molto sempre votato voto segreto. Molto grave. Cioè, Santelli, io dica lei, io non ce la faccio. Cos'è grave? Cos'è grave? Gravissimo in un momento, beh, non è che siccome si è sempre votato in un certo modo, questo è un momento storico, si sta discutendo una cosa fondamentale. Beh, ma anche fondamentale. Qualora vi si è sempre votato in un modo e per Berlusconi possiamo votare come no, si mica sempre per Berlusconi. Votato. Dai, mica su. Berlusconi Parenzo, credo che ci debba ovvio. Credo che se Berlusconi dovreste essere voi i primi. Dovreste essere voi i primi interessati. Invece Caraiole e Santelli, non so quanti siete, ma voglio dirvi no, questo. Iole Santelli. Vabbè, so Iole Santelli. Io voglio dirlo sia Iole sia Santelli, a tutte e due voglio dire questo, che invece dovrebbe essere interesse primigenio vostro, primigenio, quello di dire parla come vogliamo mangio. Vogliamo il voto, no, il voto palese, però, perché vogliamo allora, vedere chi sbatte in galera Berlusconi. Però il problema è diverso, qui non è no. Che si sta discutendo. Eh sì, perché se fosse una cosa normale, sì, il provvedimento andrebbe in aula, a quel punto su quell'atto si chiede o non si chiede il voto segreto. Qui invece stiamo discutendo non sul fatto, perché il voto segreto si può chiedere solo in quel momento. Certo. Stiamo discutendo che siccome c'è la possibilità che qualcuno lo chieda, dobbiamo fare in modo tutto che assolutamente non si possa chiedere. Quindi o cambiamo il regolamento, come follia. Dicono M5. Vabbè, voi sperate, diciamo la verità, ciao Santelli, oppure, voi sperate col voto segreto, voi sperate. Esatto. Oppure il PD che fa il furbo, non si capisce cosa faccia, dice, ma no, noi non siamo come Grillo, noi non seguiamo Grillo, noi non cambiamo il regolamento, però tutto sommato potremmo trovare un'interpretazione per cui non, ma capisce che deve essere tutto trasparente, so, invece caso. È interesse di tutti che sia trasparente, che la discussione. Vabbè, e il voto sa qual è il fatto? Il voto sul regolamento deve essere trasparente che... Vabbè, chi se ne frega adesso di queste cose, frega, invece è importante. Signora Santelli, adesso poi la gente non gliene frega cambiamo niente, voto segreto, voto palese, la gente che gliene frega. Però scusi, no, Santelli, io le chiedo una cosa. No, secondo me però gliene frega. No, del voto segreto, del voto palese, no, non gliene frega niente. No, abbia pazienza, gli frega una cosa. Cosa? Allora, non è un cittadino come gli altri, perché l'abbiamo stabilito. Allora, ma può essere un parlamentare come gli altri? No, non è nemmeno un parlamentare come gli altri. Vabbè, quello... Un marziano. Un marziano? Per lei è un marziano, sicuro. Per lei è un marziano, Berlusconi? Marziano, per me, sì. Per me è il capo. Eh beh, il marziano è anche un marziano, però è anche un extraterrestre. No, ma il marziano non lo so come. È superiore agli altri. Superiore agli altri è. Superiore. Superiore, sì. Lo possiamo dire. Genio. Da quel punto di vista là. Da quel punto di vista. Ce l'hai mai incontrato uno più intelligente di Berlusconi? Ho detto che è genio. No, ma genio più uno più intelligente di Berlusconi. Magari l'hai incontrato o no? Genio non significa intelligente. Genio è un'altra cosa. Vabbè, uno più. Chi ha idee geniali. Lo sai che io ho due busti di Berlusconi a casa? Ciao Santelli. Io no, nemmeno uno. Ma guardi, uno, se me lo regala uno? Uno, se vuole glielo do. Va bene. Affare fatto. Le do quello che ho pagato meno, però. Perché vabbè, uno l'ho pagato molto. Uno l'ho pagato. Ma nemmeno uno, quindi. Ne ho due. Comunque ci guadagno qualcosa. Vabbè, questo sicuro. Scusi, ma Santelli, però il busto di Berlusconi. Una domanda che esige una risposta chiara. Se decade Berlusconi, cade anche il governo? Sì o no? Non mi faccia tutte le cose adesso. Tertium non dà. Cioè, non è che uno può dire no, forse vediamo. Se scusi, ma io secondo lei mi chiamo Berlusconi. Questo lo decide Berlusconi, mica io. Beh, ho capito. Allora, secondo lei, però, signora Santelli. Onorevole Santelli, ci starebbe al governo se il PD che fa decadere Berlusconi? E allora questa è la domanda a cui posso rispondere. Vabbè, è quello, lei mi dirà: no, non sto al governo, giusto? Vabbè, io questo le posso dire io. Cioè, non starebbe ma al governo. Di me stessa, però, vabbè, secondo lei il governo può tenere, può restare in piedi il giorno in cui decade Berlusconi? Sì o no? Se Berlusconi facesse anche questo giochetto, lo mantiene in piedi e lo fa far cadere al PD? Tanto ci penserete so. A farlo cascare? Vabbè, quello può essere, sì. Quello può essere. Quello può essere. Comunque non è automatico. Non è automatico che cade il governo. Dalle mille sorprese. Certo, comunque lei dice non è, non è automatico che il governo cade se decade Berlusconi, giusto? No. Non è automatico. Io dico, parlando seriamente, le dico che sarebbe molto molto grave che il PD, sbagliando ancora, facesse una cosa del vabbè, genere. Quello, per vabbè, cedere, che lei è grave. Per cedere. No, vabbè, mi auguro che diciamo, dopo 20 anni abbiano pure imparato qualche cosa. Vabbè, ma è tanto, per PD voterà sicuramente per la decadenza, per cui non c'è più. Sono scemi se rimangono scemi. Abbia pazienza. Vabbè, ma quello lo dice sperare, lei. Ma è che deve sperare ormai? Sì, no, vabbè. Non devo sperare. Ma sì, ma io voglio capire una cosa, è automatica la non c'è automatismo tra decadenza di Berlusconi e... Ripeto, l'ha detto Berlusconi questo. Vabbè, ho capito, ma lei non è che ma non è mica il ventriloquo di Berlusconi, lei avrà una sua autonomia di pensiero, no? Io ho detto infatti quello che penso io, quello ma che lei ha una... l'ho detto. Rispetto a Berlusconi, lei ha un'autonomia di pensiero o no? Poca. No, mi scusi. Poca. Io allora, forse non ci siamo capiti. Quello che dice Berlusconi lei esegue, giusto? Di pensiero vabbè. In relazione a me stessa. Sì, vabbè, d'accordo. E ho risposto, d'accordo? Poi se lei mi dice il governo cade e me lo dà come allora lei mi dice secondo lei dovrebbe cadere il governo? Dovrebbe cadere? E allora io posso rispondere. Ma questo qual intendevo io. Ma questo intendevo io. Stava a supercazzo. Non è che decido io. Che la supercazzo. Magari troppa grazia. Ma secondo lei Santelli il governo cade? Chiamala Iole, dai, che dovrebbe cadere. Dovrebbe cadere secondo lei, Dovrebbe cadere. Noi possiamo rimanere seduti allo stesso tavolo con coloro i quali votano la decadenza di Berlusconi? Carnefici, coi carnefici. Dica anche, aggiunga anche carnefici. No. Diciamo una cosa, con chi si comporta in maniera politicamente stupida. Vabbè, politicamente, sono stupidi politicamente. E quelli che devono fare tutto il loro elettorato gli dice di far decadere Berlusconi adesso perché... Ho capito, tutto il loro elettorato gli dice di tagliargli la testa a Berlusconi, che fanno? Lo ammazzano. Scusate, l'elettorato. La politica è un'altra roba, Scusate, ma è la magistratura. Però, scusi un attimo, c'è una sentenza. Cucù. Cosa? C'è una sentenza. No, non c'entra niente la sentenza. No, niente. Beh, in qualche modo c'è. Nulla, non c'entra niente. No, è vero che stiamo parlando dell'applicazione dell'interdizione, stiamo parlando dell'applicazione piuttosto controversa di una legge, molto controversa di una legge. Senta, signora Santelli, ma fosse per lei Marina sarebbe la sentenza, la sentenza. No, lasciamo perdere la sentenza. No, questo va chiarito. Ma no, ma non chi se ne frega. No, perché continuano a dire, dici ma la decadenza. Ma sì, vabbè, è un discorso lunghissimo. L'interdizione. Non c'entra niente, va bene. Se ti prendi atto dell'interdizione, che c'entra con la decadenza? Vabbè, siamo è una cosa lunghissima. Senta un attimo, signora Santelli, ma se fosse per lei, Marina sarebbe il nuovo leader di Forza Italia, sì o no? Le piace come idea? Sì, le piace, me lo dica. Non mi dispiace, non mi dispiace. Ma non sia così. Ma secondo me non c'è nessun interesse a farlo, non c'è nessuna intenzione di farlo. Chi lei? Vabbè, quello l'ha detto lei anche. Però... No, secondo me, no, io credo, ritengo veramente che non abbia nessun. Però a lei piacerebbe molto, a lei piacerebbe molto. No, lei mi piacerebbe molto, a me piacerebbe, perché piacerebbe a me, insomma, se lei mi dice le piace Marina Berlusconi come soggetto ma politico, scusi, si fa le domande, ma io sto però. Una donna che è una ottima eccetera, mi piace, le piace, che lei mi ha detto non credo che lei entri in politica, non ci credo, ma le piacerebbe lei come leader, ma è incredibile, ogni si fa la domanda, dice, se lei mi dice che io rispondo che, ma fa la domanda da sola, scusa, ha paura di rispondere. No, io rispondo, le ho risposto. Le piacerebbe come leader di Forza Italia, sì o no? Un'altra volta, le risposto di nuovo, le ho detto, come leader politico mi piacerebbe, ma non credo che entra in politica. Vabbè, mi piacerebbe, ma non credo che entra in politica, vabbè, che dobbiamo fare? Okay. Oggi Marina Berlusconi, Barbara Berlusconi, l'altra figlia di Berlusconi, ha detto che intorno a Berlusconi c'è un PDL che vuole solo poltrone e potere, ha capito? Assenza di idee e contenuti, poi si rivolge anche a lei, cioè, indirettamente, anche a lei. Ma ha sbagliato a fare, perché... è ingenerosa? Credo di sì, ingenerosa. Nel senso che ci sia un partito che sicuramente si è adagiato, cioè che moltissimo ha dato Berlusconi al partito, forse più di quanto il partito ha dato a Berlusconi, e questo è giusto. Però non c'è... Che poi in tante persone... Ma poi chi è lei per parlare così, scusi, la signora Berlusconi? Sì. Barbara, chi è lei per parlare così? Lei parla del padre. No, parla del PDL, scusi. Lei parlava in un'intervista del padre. Ma poi, sì, d'accordo, però parla anche del PDL. Ma scusi, ma lei non si sente un po'... Ma chi è questa Barbara Berlusconi che dice il loro interesse privato unito? Guardi, sinceramente, le dico la verità, non mi ha fatto né caldo né freddo. Beh, però più... è un'opinione, non mi ha fatto... Anche per un motivo molto più specifico, non l'ho mai vista interessata alle vicende del PDL, mentre appunto, Marina l'ho vista più interessata alle vicende del partito, quindi e delle persone, del Milan, delle persone, quindi no, nel senso che quindi avrebbe anche un giudizio sulle persone. Non mi sembra, ha sbagliato a dirlo, su, forse ha sbagliato, probabilmente ha sbagliato a dirlo, ha detto quello che pensava, ha detto, vabbè, quello non c'è dubbio che abbia detto quello che pensava, ha detto una cosa che forse da figlia penserei anche io. E cioè, mio padre ha dato tanto, ha dato tantissimo, sì, e probabilmente molti hanno preso tanto, perché lo penso anche io, tanti sono stati attorno a Berlusconi e hanno succhiato, hanno avuto anche. Ma si è appena detto che è ingenerosa, lei ha detto che è stata un po' ingenerosa, io ho chiesto se è ingenerosa, lei mi ha detto sì, è stata ingenerosa. Ho detto tanti, non ho detto il PDL, perché dire il PDL significa dire un partito intero. Si può dire che Barbara Berlusconi non ha nessun titolo per parlare del PDL, perché non dice quello, difende il PDL. No, non devo difendere il PDL, perché chiunque può dare un'opinione. Chiunque può dare un'opinione. Sì, però la sua peserà un po'. No, perché Barbara Berlusconi? No. Cioè, giusto perché si chiama Berlusconi non può dare un'opinione. Ma no, anzi, no. Torniamo subito dopo la pubblicità. Pubblicità. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Cucù, scusate se vi ho disturbati. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, però è incredibile, c'è Barbara Berlusconi che non ha conosciuto il PDL, spara ad alzo zero contro i dirigenti del PDL intorno a mio padre Silvio Berlusconi, un PDL che vuole solo poltrone e potere. E qui c'è un esponente importante di Forza Italia, adesso PDL prima, Iole Santelli, che è sottosegretario molto vicino a Berlusconi, alla famiglia Berlusconi, alla fidanzata di Berlusconi, tutto, che dice no, però forse si ha tutto il diritto di dire, ma si difenda Santelli, dica che Barbara Berlusconi... Ma abbia pazienza, ma non ho capito, io devo fare, cioè devo deve io attaccare, guardi, Barbara Berlusconi deve attaccare, per me la gente può dire che vuole, vabbè, certo. Ho capito, però indirettamente come... è come se l'avessero però Iole, scusi Iole e anche Santelli, tutte e due, voglio dire questo, è come se le avesse, è come se avesse ricevuto una metaforica sberla e dice sì, ancora me ne dia un'altra, cioè boom, un'altra, sì, hai fatto anche bene, lei vuole poltrone e potere, boom. Anche lei vuole poltrone e potere. No, io ho risposto nel merito, io ritengo merito che abbia tutto il diritto di esprimere un'opinione, ma questo non ce l'ha, questo è sbagliato, io ho risposto nel merito, punto. Non vedo. Dov'è che ha sbagliato? Cara Barbara, ti sbagli? Questo dice. Dov'è lei che ha sbagliato, secondo lei? Nella generalizzazione, innanzitutto. Perché c'è qualcuno. Ha generalizzato. Dove ha specificato? Perché c'è qualcuno che vuole potere. Poltrone e potere da Berlusconi. No, perché secondo me c'è stato pure. Ci sono state molte. È sicuro che ci sono state molte persone, certo, che sono state intorno a Berlusconi. Dunque, fai i nomi e cognomi. Non generalizzare, cara Barbara. No, parliamo da 20 anni a questa parte, sa. No, dico a Barbara, cioè, non accomunarmi a altre persone, questo è il punto. Non accomunarmi. Quando si parla del PDL parliamo anche di un partito che è fatto da migliaia di persone, da consiglieri regionali, consiglieri comunali, da gente, che da attivisti, da persone normali che lavorano intorno. In che cosa ha sbagliato la signora Barbara Berlusconi? In cosa ha sbagliato la signora Barbara Berlusconi facendo queste affermazioni? A generalizzare, ha generalizzato troppo. A generalizzare. E secondo me ha sbagliato anche, mi permetto, politicamente, perché in questo modo io ritengo abbia danneggiato il padre. Ha danneggiato il padre, vede che però. Ha danneggiato il padre. Ho capito, però è interessante questa cosa. Finalmente uno riesce a tirare fuori una cosa. Danneggia il padre perché, evidentemente. Perché lo danneggia? Perché ha un giudizio politico contro il partito del padre, quindi danneggia il padre. Oh, è che. E quanto ci vuole per tirare? Forse perché. Mi fa parlare, io parlo. Forse perché sta troppo con la mamma. Forse perché sta troppo con la signora Veronica. Esagerazione. No, non lo so, chiedo io. È una donna grande, ma quello. Che siete sempre così maschilisti. Ma quello non c'entra. Che c'entra Veronica adesso? A proposito di Veronica, signora Santelli, ma le pare normale che uno si opponga a una sentenza che affida alla signora Lario 46.000 euro al giorno, 1,4 milioni di euro al mese? Secondo lei è normale che uno si opponga, oppure uno schiaffo alla povertà? La signora Veronica Lario, come sa, ha ottenuto. Sono due cose diverse. C'è una sentenza di separazione e poi si è aperta la causa di divorzio. No, la causa di divorzio ha stabilito. Adesso c'è stata una quella precedente. Esatto. Okay. Però comunque è una cifra alta. 46.000 euro al giorno. Però lei fa opposizione. È normale che che la signora Lario faccia opposizione pur in presenza di una cifra così alta? Guardi, problemi suoi, dipende dal suo avvocato cosa le consiglia. Vabbè, questo siamo. Questo, guardi, purtroppo io ho fatto questo mestiere, nel senso che ho fatto l'avvocato in materia di famiglia. e so che di solito in queste vicende sono molto più gli avvocati che comandano che clienti. Ah, comandano gli avvocati, eh? Sì. Cioè gli avvocati vogliono spillare, so, più soldi, no, spillano. No, amano la guerra, preferiscono amano la guerra, se no si chiude tutto e finiscono di fare gli avvocati. Questo anche è vero, questo anche è vero. Certo che pure la Santa Anche ci ha detto, beh, la cifra è alta, la cifra è molto alta, 46.000 euro al giorno. Che cosa, 46.000 euro al giorno? Non ci posso credere. No. 46.000 al giorno? Quanto vuol dire allora? Anzi, al minuto? Non lo so, no, tanto. Non mi dica se io riuscirei a spenderli, perché io credo che riuscirei a spenderli. Ah, lei riuscirebbe a spenderli? E come? In che cosa? Il problema è il tempo. Indietro. Però se mi dà 2 ore di tempo giornaliere, guardi, secondo me ci riesco. In che cosa? Vestiti? Ma non lo so, basta che vada a fare un giro via Condotti. Vuole che non vestiti? E cosa le piace di più? 46.000 euro al giorno che farebbe? Ma non lo so. Basta, guarda, basta che si passa dalla gioielleria, basta una, basta, tempi, pure questo è vero, gli vestiti, sì, però insomma non è che i costi siano così leggeri. Beh, insomma, adesso 46.000 al giorno, 46.000 al tantino, giorno, eh. È tantino, è tantino, è tantino, tantino, molto, molto. Allora, parliamo di questo cerchio magico, qualcosa lo vogliamo dire su questo cerchio magico intorno alla Signora Pascale magico. Oppure no, abbiamo già detto cerchio tutto, magico. Cerchio magico, non cerchio esiste, magico. Non esiste. Non lo so, no, secondo me no. Siete un gruppo di amiche, lei ha detto. Siete un gruppo, eh? Siete un gruppo di amiche. Ma lei da quanto... No, no, nel senso che a te molto, ci sono molte altre persone. Ma lei da quanto... Chi c'è in questo circolo di amiche? Poi non ho capito una cosa, perché in questa benedetta cena che è stata ripresa da tutti i giornali, sì, hanno parlato esclusivamente delle donne, sì, e c'erano anche due colleghi, sì, e non sono stati nominati. Cioè, vabbè, perché è più interessante. No, capisce? No, perché gli uomini non devono esistere, perché è, beh, chiaro, so, che fa più notizia, no, il circolo delle donne. Ma no, perché? Per quella frase della Bonef, eh? Su, per quella frase, no, della Bonef. No, era stato, no, prima quello, che c'entra? Vabbè, le donne, le amiche della Pascale, ma da quanto tempo conosce era la Pascale? Più simpatica. Era più simpatica la cosa, da su. Parecchi anni. Da quanti, da parecchi anni. Da parecchi anni, Ma è veramente innamorata, secondo lei? Molto. Molto innamorata, molto. Quanto? Ma è tanto, tanto, Ma si vuole sposare? Questo non lo so. Ma secondo lei, così, conoscendola da tanti anni, se si vuole sposare? Secondo me vuole stare con Berlusconi, poi non vuole stare con Berlusconi e basta. Come ha preso questa, come ha preso questa storia della Bonef? C'è proprio in termini proprio di cioè si è messa a piangere, era distrutta, ma non era... è il tipo che piange, non è il tipo non che piange. Certo, non è il tipo che piange, certo è una persona, ragazza, che si è trovata sensibile nell'arco di 20 giorni, no, si è trovata nell'arco di un mese a subire una pressione di stampa e diciamo un attacco abbastanza sferrato contro di lei, molto forte. Che ne pensa di Santoro? Quello, cosa, no? Ha detto di Santoro, per esempio? Cioè, questo è curioso. Cosa ha detto di Santoro la signora Pascale? Cosa ve l'ha detto? Ha detto che i giornalisti si occupano di queste cose. La stessa cosa che avrei detto io. In prima la gente ascolta queste cose in televisione. No, ma cosa ha detto di Santoro? Che novella, no? Gli ha detto qualcosa, no? Le avrà detto qualcosa su Santoro, che è stato un criminale, che è stato un... No, l'ho vista prima della trasmissione. Dopo non l'ha sentita. La trasmissione non l'ho vista. Ma il che abbiamo fatto, io te devo dire la verità, prima quando me l'hanno detto all'inizio non ci credevo. Dico, cosa? Possibile. Che ha invitato la Bonef, che diceva della Pascale Lesbi. Ma possibile. Mi hanno detto che c'era questa cosa, ho detto ma per campare bisogna fare questo, bisogna fare 50 puntate, uno fa una puntata sulla Bonef, pazienza, ho capito, madonna, e che dobbiamo fare? Giornalisti, su, poi vi lamentate che gli italiani dice che hanno una bassa cultura, che hanno un popolino da gossip, sulla vita, che fanno la gossip di e se la politica è tutta gossip, che dobbiamo fare? Arriviamo a questo punto. Ma il difetto più grande della Pascale qual è, secondo lei? Il difetto, ci dica un difetto, il difetto più grande che ha. Ce n'era uno, no? Non è che sarà troppo perfetta buona, come forse. Donna. Insomma, forse non la conosco abbastanza a fondo da. Non, che ne so, cioè... Non lo so. Non è troppo innamorata. Io, a me piace, siccome è una persona molto genuina, molto, molto diretta e molto franca. A me le persone così piacciono. Ma è vero, ma che fa molto tutto il giorno la signora Pascale? Molto, guardi, questo mi incuriosisce. Molto vere. Ma cosa fa tutto il giorno la signora Pascale, oltre a girare con Dudu? Cioè la giornata della signora Dudu. Tipo della signora a Dudu, sì, è vero. Dodo è quello, cioè, di che Dudu. Fa tutto il giorno? Ma fa il cane. Ma cosa fa tutto il giorno la signora Pascale? Tutto il giorno. Cioè sta molto con lui, mi dicono, no? lui non lo so che cosa fa tutto il giorno. Tutto, studi, beh, è tosta. Io so come quando cosa, ci vado lì a parlarci al telefono, se ci parlo al telefono so che cosa le faccio. Se vado lì, vado magari la saluto, parla con me, ma sì, non lo so che fa, se sta nell'altra stanza. Ecco, che fa uno tutto il giorno? Perché uno si annoia, tutto il giorno cosa fa? Non farà una vita normale come tutti gli altri. Rischio, no, della noia c'è, rischio noia c'è. Non fa la vita, non fa una vita normale come tutti gli altri. Beh, no, normale, no, come tutti gli altri, appunto, no. Normale, no, come tutti gli altri non credo, cioè uno che fa, una che fa la compagna di Berlusconi, la vita normale non la può fare, dai. Ma io, poi tutto diventa normalità, perché? Cioè uno deve uscire con la scorta, con le cose, la macchina. Complicato, ma quale scorta? Una persona c'ha. Vabbè, lei, ma comunque, insomma, ma comunque è tosta la cosa, non è facile. No, anche non penso che sia, non ho detto che è semplice. Non è semplice. Ho detto che è semplice anche perché se non fosse stata la compagna di Berlusconi, sicuramente non avrebbe avuto questo linciaggio mediatico. Cioè, avrebbe vita più facile. Avrebbe vita più facile. Sicuramente avrebbe vita più serena. La vita sarebbe più serena, anche più semplice, diciamo, la vita. Dire di sì, no? Beh, immagini, se fosse, non fosse la compagna di Berlusconi, Santoro si sarebbe occupato di lei. Beh, no, però poi la vita non è che è così. Cioè, la vita è anche, no, ci sono anche dei vantaggi, pagare, forse, ci sono anche dei vantaggi. Cioè, se si sposa con Berlusconi, dei vantaggi ce li avrà. Non c'è dubbio su questo, o no? O no? Guardi, o no? Io ho trovato una persona, insomma, un personaggetto abbastanza impegnativo, Chi? Berlusconi. Berlusconi, vabbè, abbastanza impegnativo. Sì, sì, sì, certo, impegnativissimo. Comunque, vabbè. Faticoso. È faticoso, sì, è faticoso. Vabbè. Però l'ascolta molto, dicono. Eh? L'ascolta, cioè, molto. L'ultima parola ce l'ha lei. No, l'ascolta molto, è vero che l'ultima. Ma non diciamo sciocchezze. No, non diciamo sciocchezze. No, queste sono tutte stupidaggini. Ma le donne qualche volta. Penso che abbia, guardi. Ha come tutte le donne. Sì. Che se una donna vuole bene a una persona. Sì. Le donne, scusi, questo me lo concede. Voi siete due uomini, io sono una donna. Sì. Mi concedete che noi donne abbiamo un po' di più di istinto e di intuito? E dunque? Percepiamo, sì, diciamo, questa roba un po' più, no? Beh, allora, ma per esempio lui... Osserviamo, e poi abbiamo un istinto molto di protezione. E quindi, come tutte le donne... Ma è vero donne, che mette bocca in qualche decisione anche politica, sì? Io guardi, non lo so, teniamo conto che era la ragazza che faceva politica. Appunto, no, ma probabilmente sicuramente le interessa. Ma che adesso metta a posto le decisioni politiche, no? mi sembra tanto. Vabbè, ma sarebbe sicuramente, anche perché non è che, insomma, credo che glielo consenti tanto. Sicuramente cerca di difenderlo. Ma questo non c'è dubbio. Va bene, signora Santelli, l'abbraccio fortissimo, a presto. Grazie. Grazie. Pubblicità, a voi. Pubblicità. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. La Zanzara. Siamo qui, Giulio da Bologna. Buonasera, Giulio. Sì, buonasera, ciao. Senti, io ho letto il giornale questa mattina e sono rimasto un po' interdetto, no? Perché sia Repubblica che l'Unità che il resto del Carlino qua a Bologna titolavano ragazzo gay si suicida. No, allora io già dal titolo, come ragazzo gay, cioè che non è un ragazzo, che non è un essere umano, cosa c'entra l'essere gay, no? Però da vedere che tutti, bravo. Tutti scrivono ragazzo si suicida perché gay. Questa cosa lo ha detto lui, ignorante di un ignorante, insensibile, sì, di un insensibile. È politically correct, ma così, non però, è politica, è l'intelligenza e il rispetto per uno che si è suicidato e lo ha scritto il perché. Ma non è la partita che si commenta, non è Biscardi, hai capito? Ma non è Biscardi questa roba. Stai tranquillo, lascia parlare. No, non sto tranquillo perché ci vuole rispetto, non è Biscardi. Stai tranquillo, lascia parlare. Ma guarda, io chiamo proprio per rispetto, caro Parenzo, perché io ho più o meno la sua stessa età. Ma chi sono di Roma. E allora? Capisco che ci sono tanti motivi che possono spingere un ragazzo a suicidarsi. E allora abbi rispetto e non dire stronzate. E che è chiaro che in realtà i vari filoni della stampa vanno a strumentalizzare questa questione per creare consenso. Ma e poi perché non ci sa vanno niente? Tutti, ci vanno tutti a mangiare. Ha ragione. E tu, ma questo ragazzo ragione, lo ha scritto. Ma perché non avete rispetto? Ma che c'entra? Ma perché dovete fare il commento? Perché dovete fare il 90° minuto sul bigliettino che ha scritto un ragazzo che si è ucciso? Ma è una questione di rispetto. Le questioni di rispetto. Ma il rispetto manca lei di rispetto. No, per onestà intellettuale bisogna fare questi discorsi. Per onestà intellettuale. Non avete rispetto per onestà intellettuale, mica non per... avete rispetto neanche ma che della c'entra morte il rispetto? Di un ragazzo che ha scritto. Rispetto, spiego alle associazioni di omosessuali, alla politica, che non è che adesso per prendere consenso vanno a mangiare sulla morte di questa persona, cioè che chiaramente in un gesto disperato all'ultimo ha scritto che si suicidava, che era gay, ma è chiaro che, non, che è ragionevolmente molto difficile. Ma è chiaro, scusa, ma uno davvero ma davvero ma è un perito del tribunale lei, ma chi è? Ma davvero uno può pensare che una persona ma non si può trasformare tutto in una partita di basket o di calcio. Vabbè, abbiamo capito. Mario da Bologna. No, Mario sempre da Bologna. Su, andiamo. Mario. Sì, buonasera, sono medico. E lei è medico? Volevo, vabbè, questo... Mi lingua in abito neurologico. Volevo dire a Parenzo che si può rasserenare, che sicuramente questo ragazzo si è ucciso perché c'era un fondo di depressione, senza dubbio. Poi avrà scritto sul biglietto quello che avrà scritto. Ma non è questo il punto. Il punto è la malafede con cui questi sinistri, fra cui di cui Parenzo è un grande rappresentante, stanno iniziando a generare questo clima per cui uno si uccide perché c'è l'omofobia, le ultime cazzate dette dalla sindaca di Lampedusa che con i barconi affonda l'idea dell'Europa, è ormai da 6 mesi a questa parte, dobbiamo sentire la Kyenge, la Boldrini che parlano dello Ius Soli, è un attacco ormai e convincere la gente tutto continuamente insieme che c'è il clima per cui tutto uno si uccide. Insieme. Tutto insieme, il minestrone grandi zuppe, ecco. Traffico, non è un traffico, Parenzo, e non è così il punto. Non ho capito cosa dice lei, non ho capito che non c'è nessuno. Un giovane si uccide perché ha sicuramente una serie di altri problemi, ma non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio, non c'è nessun dubbio su questo. Allora avrà anche scritto sul biglietto questo che lui si uccideva. Ma certo, ma uno può scrivere quello che vuole. Assolutamente vero che è così, ma è il perché adesso se ci fosse a me fanno impazzire. Televisione in radio dicendo che c'è un clima contro ma gli non è vero non ma è quando assolutamente mai. Vero e non è assolutamente ma non solo non è assolutamente vero si fa passare l'idea che siccome non c'è una bisogna fare qualcosa leggevo da alcune associazioni anche alcune persone che conosco e che stimo bisogna fare qualcosa bisogna far passare la legge in Parlamento dove sono le norme dove sono i diritti come se la mancanza del matrimonio omosessuale o la mancanza di una legge sull'omofobia fossero alla base del suicidio di questo ragazzo. E dai, e dai! La zanzara. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Dai! Venuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Non stare lì così, mettiti comoda, comoda. Sull'erba molto spesso e si scorica. Pronto? Sì. Onorevole Rabino? Sì, chi parla? Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. Buonasera. Senta, ma ha visto questo fuori onda? Certo. Beh, no, no, come vogliamo commentarlo? Sta al top. Intanto che è un fuori onda. No, ma è molto divertente, noi siamo morti dalle risate. A proposito, è lì con un po' di gnocchi? Ma sicuri, io quando uno... in un momento scanzonato, privato e leggero si lascia andare. Quindi io non ho da arrampicarmi sui vetri e da dover cercare attenuanti o scuse. No, ho detto quello certo che ho detto, bravo, tra l'altro bravo, in modo estrapolato, perché è un fuori onda, ma non è neanche un fuori onda completo. Perché cosa ha aggiunto poi? No, ma voglio dire, voi mi insegnate, voi che siete più bravi di me, che comunque una frase estrapolata dal contesto ha un significato, può averne un altro, ma non voglio che sia in nessun modo vissuta come un accampare scuse o attenuanti. Ecco, ma appena visto quelle cose, come si è sentito? Posso dirglielo sinceramente? Sì. Come io ho la fama di essere uno serioso, sì, mi sono detto, mamma mia Mariano, ridendo come un matto, ma sono anche simpatico, riesco anche a far ridere. Questa è stata la mia reazione, perché in effetti trovo che al netto di tutte le considerazioni che si possono fare, credo per una volta di essere stato divertente nella mia vita. Lei è sposato o fidanzato? Sono separato. Dunque è single, diciamo. Sono single, senza figli, sì. Figli. I figli possono... No, nel senso che sono stato sposato, ma no, senza figli. Beh, questa scelta civica, cioè, lei ha umanizzato il partito di Monti con questa cosa, secondo me. Ma non c'è cane, non c'è birra. Condivido questo punto di vista. giusta. Un mio amico che gioca con me a tennis, l'altro giorno mi ha detto: Mariano, benvenuto sulla terra. Perché aveva da anni, pur essendo siamo amici, sempre avuto questa impressione di me così rigida, così ieratica e austera. Sa che però qualcuno si potrebbe arrabbiare, cioè per esempio i piemontesi o qualcuno al consiglio regionale, perché lei dice: in 5 anni al consiglio regionale del Piemonte non ho mai visto manco una gnocca, e adesso invece no, non ho detto quello. No, detto in quello. 6 mesi che ne ho vista molta di più a Roma, è vero. Se cosa vi devo dire? Ci sono molte, c'è un concentrato di molte più belle ragazze a Roma, non ho nessun problema a dirlo, a ripeterlo anche ai miei amici, alle mie amiche. Piuttosto che in Piemonte, piuttosto che a Torino, piuttosto che a Torino, ci sono molte più belle ragazze. Lei ha utilizzato un'altra parola, perché ovviamente nel colloquio con un suo collega ha utilizzato la parola gnocca, vabbè. Che non è un termine sicuramente politically correct. Ma non è nemmeno offensivo nei confronti delle donne. Ma magari qualcuno si è offeso, io ho chiesto scusa, perché quello che c'è qualche donna si è offesa? Qualcuno sì. Ma perché? Io non capisco una cosa. Al bar, ovunque. Lo so, però ci sono alcune donne che si sentono urtate nella loro sensibilità, ed è giusto a quelle donne chiedere scusa se il termine non è proprio il più aulico, il più solenne e il più politica di corretto. Vabbè, ma uno con una persona accanto lì, certo, magari diciamo la ma verità. Ma è evidente, quello è, io non devo dirlo perché sennò sembra che io voglia cercare scuse. No, lei è stato un po'... ingenuo, perché lo riconosco imprudente, perché il suo collega Carbone, il suo collega Carbone che era accanto a lei, se ne è ben guardato da risponderle, stava zitto muto, perché ma in realtà anche lì bisognerebbe capire che il mio collega in quel momento stava messaggiando e ricevendo messaggi, quindi era distratto. Poi voglio dire, con il collega abbiamo scherzato, Striscia ha deciso di prendere un pezzo, non un altro, e viva la vita. Ma anche in quest'altro pezzo che c'era, adesso ce lo deve non dire. Io non mi ricordo sinceramente, perché queste considerazioni tra virgolette da bar, lo dico sinceramente, non voglio arrampicarmi sui vetri, sono considerazioni che anche in altri momenti della mia vita, pur seriosa, pur ieratica e rigida, ogni tanto mi sono lasciato ma è normale. Andare a fare, perché trovo che siano le cose più umane e normali del mondo. Senta, ma a Roma ha trovato qualche fidanzata? Sinceramente no. Ho detto infatti che ne ho solo vista tanta di belle, belle ragazze. Lei è un bell'uomo, adesso non faccia. Questo lo dice lei. Ma sì, lo posso dire da eterosessuale, ma anche se fosse omosessuale non ci sarebbe problema. Insomma, ho visto le foto, oggi mi sono andato un po' a informare, non così. So che non è che adesso voglio dire, qualcosa avrà fatto in questi mesi. Comunque, vabbè, adesso non... Cioè, non, ma sono ma nascono tanti amori lì dietro in Parlamento. Perché io non capisco se Rabino si riferiva in realtà alla Camera o in generale a Roma. Ma io in realtà mi riferivo in generale a Roma, e devo dire anche con in generale mi riferivo a Torino, non tanto al Consiglio regionale, a essere proprio precisi. Ma infatti guardi, ci sono delle torinesi che sono mi seguono su Twitter, che mi, non è proprio bellissimo, mi stanno dicendo delle cose tremende. Da torinese sono offesissima, non per la gnocca, ma perché dice che non ce ne sono. Ma non è proprio bello adesso. Dovrò recuperare con ma non è stato rimproverato da qualcuno del suo partito, che ne so, mandato là? Sinceramente no. Beh, però è stato un pezzo ma fantastico. Io credo questo, Cruciani, c'è anche Parenzo con lei. Sì, come sì, no, siamo ecco. Saluti a Parenzo. Sì. Saluti. No, io credo più in generale che la questione sia, comprensibilmente, che quel video, comunque, io credo, tra l'altro, anche non so fino a che punto legalmente carpito. Beh, fu un fuori onda, lei era TGCom 24, l'hanno sempre fatto. Lo so, però noi firmiamo una liberatoria non perché i nostri fuori onda da pause pubblicitarie finiscono. Vabbè, comunque l'hanno sempre fatto, non credo, però sì, no, si può discutere. Infatti, guardi, non sto solo dicendo che quel video lì si presta a questo tipo di interpretazione, ma a Roma i nostri deputati parlamentari come passano il tempo, e allora io guardi, è la prima volta che lo faccio, perché magari siete andati sul mio profilo Facebook oppure no, io non l'ho ancora fatto, ma lo faccio con voi se posso. Dica. Io sono uno dei parlamentari più presenti in Parlamento, credo di essere il secondo in assoluto nel mio gruppo parlamentare. No, è solo per dire per un momento che non passo il mio tempo a godere la delle temperature e a guardare le belle ragazze di Roma. Ci sono le belle ragazze, le vedo e godo quando esco dal palazzo delle belle temperature. Ma sono uno presente in commissione. Ma però lei ha detto esplicitamente. Ah, vabbè, ma questo qua va detto e va bene. Che lei è presente. Lavoro, questo che voglio dire. Però voglio lei a un certo questo. Punto. Qual è la frase esatta? Risentiamo un po' la frase esatta, la prima, però la prima, quella sul tempo e sulla gnocca. Un attimo, risentiamo. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. Beh, devo dire che è fantastico. Io lo trovo, cioè, l'ho detto prima. No, l'ho detto prima che mai confessione fu così esplicita, chiara, anche se vogliamo sincera, perché c'è un modo di sincerità. Una signora mi ha chiesto. Ma è la verità. Le dico di più. Questa signora si chiama anche Adriana, è una signora di Alba, non so se mi sentirà, siamo in diretta con voi. Sì, siamo in diretta. Beh, certo, sì. Allora, è una signora di Alba, della mia città, sì. Che ha avuto la cortesia di invitarmi a cena qualche settimana fa, proprio per chiedermi e capire, siccome mi conosce da quando sono bambino, per capire se ero cambiato, se ero diventato un'altra persona una volta diventato deputato. Beh, magari vedendo tanta gnocca uno può avere... No! E durante la cena si è parlato dei privilegi dei parlamentari, di stipendi, di qua di là, di su di giù. Io le ho spiegato che poi tutti questi privilegi non ci sono, che facciamo una vita abbastanza disordinata e sconclusionata, che non è proprio il massimo della vita, tutto sommato, glielo dico sinceramente. Io fortunatamente... Cioè non è che sta piangendo miseria, no? No, sto solo dicendo che... Non siamo privilegiati. No, io sto dicendo che abbiamo tanti sicuramente privilegi e benefit, dico solo che facciamo una vita anche un pochettino impegnata e sconclusionata, un po' incompatibile con un tran però a questa signora di personale, privato, tranquillo. Ma detto ciò, ho spiegato alla signora, a precisa domanda, ma che cos'è che alla fine... a Roma, come dire, vi ha colpito, io gli ho spiegato che non sono i privilegi, ma che a Roma si sta proprio bene e ci sono bellissime ragazze e poi ci sono molto belle ragazze, ma anche quella signora ha utilizzato la parola 43 anni. Io ho 43 anni, sono single e rivendico il diritto di essere una persona normale e di poter guardare le belle ragazze, e se possibile. Vabbè, quante ne ha rimorchiate in 6 mesi? Adesso me lo dica subito. 2, 3, 4. Me lo dica. Adesso che siamo così, me lo dica quante ne ha rimorchiate in 6 mesi? Nessuna. Su. Nessuna. Ma che nessuna, è uno sfigato tremendo. Vabbè, pubblicità a borsa. Grazie, Rabino. Grazie. A voi, borsa, buon lavoro. Borsa. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Davide? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Emilio da Pavia, buonasera Emilio. Buonasera, niente, io avevo telefonato per un motivo. Sì. Che era quello di... niente, ogni tanto sento che sbagliate qualche congiuntivo, però... Ma noi sbagliamo, tante questo cose. Questo non è congiuntivo. No, io vorrei soltanto nominare un nome stasera, visto che mi è stata data questa grande possibilità. Ed è il nome di un ebreo russo morto purtroppo 3 anni fa. Ma che c'entra adesso gli ebrei russi? Che no, ce le frega? Spiego, no, le spiego. Questo ebreo russo si chiama Zecharia Sitchkin. Ma che me ne frega tutti a me? No, glielo spiego. Invito tutti ad andare a vedere in internet chi era stato questo grandissimo uomo. E spiega dell'arrivo sulla Terra, tantissimi anni fa, dei famosi Anunnaki dal pianeta Nibiru della nostra galassia. Andiamo. Quando sono arrivati qui, no, le spiego? Ma no, non mi deve spiegare niente, gli Anunnaki. È molto interessante. Spiega, e il discorso è legato all'omosessualità che c'è nella nostra razza. Loro hanno trovato qui sulla Terra un ominide, l'hanno evoluto, e l'ominide derivava dalla scimmia. La scimmia ha tutti, diciamo, queste caratteristiche, Pavia, che vediamo nella Pavia, con tutti gli ospedali che ci sono. Cioè, non ho capito, dunque la conclusione qual è? La conclusione è che questa nostra tendenza penso che sia nella nostra genetica. Cioè? E quindi tutti tanti discorsi accusatori crollano. Però invito tutti ad andare a cercare i libri e a leggere le opere di questo... Sicuramente tutti stiamo correndo verso le biblioteche. Mauro dalla provincia di Udine. Buonasera, grazie Cruciani per darmi sempre l'opportunità. Vada, dica. Sì, ecco, allora niente, volevo dire solo questo: non possiamo immolare un ragazzo che io faccio le condoglianze alla famiglia, ma non possiamo immolarlo come simbolo degli omosessuali. Già ha fatto un gesto che è un gesto che io ritengo vile. Un gesto che non rispetta, ma come si permette? Come si permette? Ma se commentassero, Dio non voglia, un lutto in casa sua alla radio, ma lei cosa direbbe? Ci sono tante persone, ma se commentassero il lutto suo alla radio, ma cosa direbbero? Fai tranquillo, fai parlare. Non possiamo immolare un ragazzo che ha con grossi problemi, grossissimi problemi. Ma che ne sa lei? Ma lei cosa ne sai tu? Io ho detto semplicemente che bisogna rispettare il dolore di questa famiglia e a leggere quello che lui ha scritto e che ha lasciato, vittima di episodi di bullismo, ha lasciato un messaggio alla famiglia, e ha scritto esplicitamente. Ma non è facile quello che ha scritto sto ragazzo. E non è che chiama un imbecille da Udine che dice no, ma secondo me. Ma lascialo parlare. Come fosse la domenica sportiva. Quanti ragazzi si suicidano perché per la scuola, per queste cose qua. Questo ragazzo qui ha lasciato uno scritto che era succube, cosa si può dire? Non si può dire niente perché non sa niente, per quello non si può dire niente. Siccome non sa niente, come si può dire? Mauro, grazie, Ivan da Verona, fammi sentire Ivan da Verona. Che cosa, grazie? Pronto, buonasera. Ivan da Verona. Dice, grazie a tutto. Dice, lei è uno stronzo. Grazie, buonasera, dottor Parenzo, anche se non è dottore. Pronto? Sì, vada, Ivan. Buonasera al dottor Parenzo, anche se non è dottore. Avevo una domanda da fargli per una sua affermazione di qualche giorno fa. Una domanda da farle. Ha detto che gli zingari da farle, ha ragione, dottore, da farle. Ma poi è bello che parla Parenzo di rispetto per i morti quando parlava in quel modo di Pripke. È bellissimo. Beh, certo. E poi parla di tutti qua, vabbè, comunque c'è una differenza, ma lei mica la domanda è piano, il dottor quel Parenzo boia e questo ragazzo poverino che si è suicidato. Va bene, Ivan, vai. Dottor Parenzo, le faccio questa domanda. Lei ha detto che nei campi rom ci sono meno ladri che nel Parlamento, ci sì, tanto anche che le banche sono la vera. Ha citato Brecht con le banche, vi dicendo. Poi ha detto che guadagna 120.000 euro l'anno. Vabbè, Ivan, andiamo al sodo, dai. 120.000 euro non li mette in un bel campo rom invece che in banca, vedrà quanti se ne ritrova. Mi va da me. Si vuole sempre vantare delle sue amicizie con i politici. Io non ho mai vai a metterli in un campo rom in una bella con il ciaccio, con un bel zingarone, non l'abbiamo mai vista fotografata a lei. Poi ultimamente è di una noia mortale, non fa altro che dire non siamo da Biscardi, ma lo cacci, lo dandi via che le rovina la trasmissione. E non c'è, come mestiere fa il cugino del suo cugino produttore, che è quello il suo mestiere da sempre, dai su, che cosa lo tenete a fare? Non me moleste moschito. Non mi molesti moschi. Questo è un poveretto. Che oh, abbiamo un signore che è un animalista, no, convinto di più. Si chiama Davide Battistini. Buonasera. Buonasera a tutti. Battistini, come sta? Molto bene. Io l'ho definito animalista convinto, ma in realtà bisognerebbe definire fanatico per certi aspetti. Fanatico, caro Battistini. No, direi solo determinato e coerente. Capito, Parenzo? È un amico tuo questo qua, eh. No, ma io guarda, senti io cosa dice, cocker, senti, un senti, cane per tantissimi ma anni. Ma che c'entra che hai avuto un cocker? Ma chi se ne frega? Ma mi dipingi senti, come fossi un nemico senti, degli animali. Ma hai detto che gli animali non vuoi tra i coglioni gli animali quando ho mangi. Ho detto che se vado a mangiare, come ci sono le sale fumatori, sarebbe giusto ci fossero le sale per quelle che vogliono portare i cani. Questo ho detto, è una bestialità? Ma che dai, su. Allora, Battistini ha scritto: ricordatevi di non donare né sangue né organi. Senti, ricordatevi di non donare né sangue né organi. O lo Stato ci mette in grado con certezza assoluta che il nostro sangue e i nostri organi salveranno solo vegan, oppure io il mio sangue lo butto nella fogna di fronte al pronto soccorso. Beh, non voglio salvare macellai, cacciatori, vivisettori, allevatori, sadici. Beh, caro Battistini, mi sembra francamente un po' esagerato, eh? Francamente un po' esagerato, Battistini. Cioè, lei non vuole donare il sangue se non ha... perché non vuole salvare, che ne so, uno che è un cacciatore, no? Io credo che bisogna essere coerenti. Ma ho capito. Contesto uno sfruttamento che declassa degli esseri viventi a degli oggetti. Non voglio finanziare né aiutare chi crea un mondo che io non condivido e non voglio che esista più. Però scusi Battistini, quando uno dona il sangue non è che uno può porsi il problema a chi va questo sangue. Lei dona il sangue e poi può andare a un cacciatore, a un macellaio, a uno che magari lavora nella vivisezione, a un allevatore, a chiunque, magari a qualcuno che non ama gli animali come lei. Lei non può fare differenze da questo punto di vista, ma è una follia. Io credo, Cruciani, che lei gli piace sempre cavalcare il pezzo e fa bene perché il... Ma cavalcare il pezzo? L'ha scritto lei, non è che l'ho scritto io sta roba qua, che cavalca il pezzo, lei che cavalca. Ero stato invitato a parlare del digiuno di 43 giorni per i diritti dei cani. Ma anche quello, non si preoccupi. La provocazione che ho fatto sul sangue è una provocazione di tipo filosofico. Ma che filosofico? Che non mi rimangio, che non mi rimangio, io non dono sangue e non donerò organi. Ma quello che mi premeva era suscitare un dibattito e vedo che è arrivato fino a Radio 24 a livello nazionale, per cui ho centrato il bersaglio. No, però che lei abbia centrato il bersaglio, lei deve sapere, signor Cruciani ha una predilezione per le teorie, per le tesi, non ha centrato nessun bersaglio, Battisti, guarda, glielo posso garantire, sarà la prima e l'unica volta che avrà questa tribuna, e meno male che ci siamo noi, però le assicuro che nella scelta degli ospiti, signor Cruciani, non è che non mi faccia parlare perché sennò mi incazzo. No, però scusi un attimo, io non capisco una cosa. Lei non vuole dare. No. Ricordatevi di non donare. Lei dice non donare né sangue né organi, cioè lei non vuole donare. Cioè non solo non vuole donare lei, ma invita anche gli altri a non donare. Io dico che quando una persona dedica tutta la sua vita ai diritti degli animali non umani, ad ampliare la sfera dei diritti, includendo gli animali che attualmente sono considerati oggetti. Invece sono esseri senzienti, quando dedichi tutta la tua vita a questo ampliamento di diritti, è una conseguenza logica e razionale non essere d'aiuto ma ad una forma di sfruttamento che è nella società. Ma ho capito, ma non era solamente un apporre un dilemma, che è un dilemma filosofico. Tutto lì. No, però scusi, una cosa è che lei cosa è battersi per i diritti degli animali. Chiaramente non è attuabile, perché non è attuabile nella società di poter scegliere a chi dare o non dare sangue. Appunto. Ecco. Quindi qui ci troviamo d'accordo. Era solo un esercizio filosofico. Ma è un appello, lei ha fatto un appello. Caro Battisti, lei nel mondo animalista è anche abbastanza seguito. Comunque lo sai, Parenzo, che ha fatto 43 giorni di sciopero della fame perché il Consiglio regionale dell'Emilia doveva approvare una legge per vietare la catena per i cani? Ma questo si dà. Io, a me questo piace, perché è una persona che ha un senso civico bello. Ma il senso civico che c'è con la catena per i cani? I cani come lui reputa che gli animali abbiano gli stessi diritti degli uomini. Cruciani, io l'ascolto quasi tutte le sere quando esco dall'ufficio. Lei piace provocare. Ma dai. Io ho imparato un po' da lei a provocare. Ho lanciato un dibattito. Ma le catene per i cani? Ma i cani come dovranno essere tenuti? Libertà? Qualcuno avrà bisogno di una catena, no? No, assolutamente. Non stiamo parlando di liberare i cani o di renderli pericolosi per le persone. Stiamo dicendo solamente, abbiamo ottenuto una legge regionale in Emilia Romagna che spero si estenderà alle altre regioni. Abbiamo chiesto e ottenuto che i cani non siano classificati come allarmi per le case. Sì. I cani sono animali sociali, hanno bisogno di vivere il rapporto con le persone. Però Battistini, mi scusi un attimo, io voglio capire una cosa. Secondo lei Dudu, no? Dudu, com'è trattato? Dudu, diciamo che è un animale felice. Purtroppo vive con un puttaniere, però... Ma che è una follia pura? Ma che c'entra? Ma sta scherzando o dice sul serio? Diciamo che non è maltrattato. Scusi, ma a Dudu che gliene frega che vive con un puttaniere, scusi? Assolutamente nulla, era per fare una battuta. E il cane di Monti invece come l'ha visto questo trattamento da parte del signor Monti? Ma non l'ho seguita quella cosa lì, è una... Beh, come no, l'animalista convinto. Monti mi sembra più uno zombie che un soggetto di cui parlare. Ma parliamo di diritti animali. Battistini, un'altra volta, non c'ho tempo, la invito, la rinvito animali. Un'altra volta, grazie. La saluto. Grazie, ciao Battistini, ciao. Cioè io ci ho parlato due volte con questo signore qua, ho parlato ed è una persona di quasi 90 anni, furba, molto scaltra, che ha 60 anni in politica e di una certa parte della politica, e quindi una persona a una certa età, 90 anni, o è saggia, ma se è furba io non voglio. Poi non ha più senso che noi andiamo a parlare, ci ha ricevuto perché ci ha dovuto ricevere, perché siamo una forza bene o male importante del paese. Riccardo da Forlì, cioè questo prima si lamenta che non l'avevano convocato al Quirinale, sì, e ora gli fa vabbè, che devi fare. Riccardo da Forlì. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Tanto ha perso. Io sono uno dei vostri ascoltatori che quando arriva al casello di Tarice gode, quindi sono uno Carisio, vostri... si chiama Carisio, sì. Carisio. Ah, vabbè, problema, io ho una protesta formale da fare. Basta, non sarà il primo né l'ultimo. Ecco, però vabbè, io protesto perché voglio Parenzo lì in studio. Non è possibile che Parenzo intervenga in trasmissione ed è a casa del signore, da questo cellulare che gracchia, che non si capisce. Ma se sono in studio? Stasera, ma di solito è in... Vabbè, ho capito, cerchiamo di fare il nostro meglio. Ecco, perché sennò io godo la metà. Va bene, per far godere lei cercheremo di accontentarla. Adesso okay. Che lei goda la metà, d'accordo. Marco da Roma, buonasera. La gente è malata comunque. Marco, grazie, dica. Grazie, sì. Allora, noi volevo, per la vicenda del ragazzo che si è ucciso, sì. Io provo profonda angoscia. Vabbè, perché... d'accordo. Poi? No, io sono omosessuale. Lei è omosessuale. Volevo dare un'altra chiave di lettura, perché io sono omosessuale che si sta curando. Allora io ho trovato tanti psicologi che mi hanno costretto quasi ad accettare la mia condizione di omosessualità, perché non è una malattia. Alla fine ho trovato uno psicologo che mi ha detto: guarda, lascia perdere la spinta omofoba o omofila che ci sia nella società, cerca di capire qual è la tua identità sessuale a prescindere da queste spinte. Allora magari questo ragazzo non ha trovato una persona che lo capisse e lo cercasse di dire: guarda, tranquillo, o gay o eterosessuale va bene lo stesso. Magari ha trovato solo delle pressioni da amici gay che gli dicevano: devi accettare la tua condizione, fottitene degli altri. Siamo alla questo non lo possiamo sapere. Poi? Ma è solo una testimonianza, visto che non sento sempre c'è questa omofobia che spinge, ma c'è anche l'omofobia che ti costringe ad accettare la tua condizione e magari sei eterosessuale. Vabbè, Marco, ma lei, non ho capito, è un omosessuale? Io sono un omosessuale che si sta curando. Cioè, come che... si sta curando? Non ho capito. Ma con il mio psicologo sto dicendo: guarda, prova questa esperienza. Ma magari... curando da che cosa? Per guarire dall'omosessualità? Dall'omosessualità, sì. Cioè, perché lei vuole guarire? Sì. E lei ha trovato uno psicologo che con cui pensa di guarire dall'omosessualità? Sì. E questo qua che mestiere fa, scusi? Il guaritore di omosessuali? Lo psicologo? No, perché lui non è che dice che l'omosessualità è una malattia. Qui dice: magari non è la tua identità sessuale, no, devi accettare qual è la tua identità. Non è una condizione universale che uno dice: vabbè, senti, ho abbracciato il mio amico, mi è venuta un'erezione, sei omosessuale, basta, sei condannato a essere omosessuale. Ma ho capito, ma se lei è scusi un attimo, lei è convinto di essere omosessuale? Sì. No, io ho dei problemi, cioè penso, ho dei problemi. Perché ha dei problemi? Semplicemente perché gli piacciono i maschi, ha dei problemi, scusi. Ma sì, perché poi sto male, cioè sto a disagio. Allora, questo disagio è dovuto dalla società omofoba, dalla pressione di quelli che non ti accettano, o da me stesso che non accetto invece questa condizione? Vabbè, questo dilemma che... cioè lei è omosessuale ma nello stesso tempo non è troppo convinto di esserlo. Non sono contento di essere. Non allora, è contento di essere. È la società che mi costringe a non accettare questa situazione. Forse in ma gli piacciono i maschi, se accetti così gli piacciono i maschi, qual è il problema? Se gli piacciono i maschi, adesso per carità non voglio sostituirmi al suo psicologo, però uno a un certo punto gli piacciono i maschi. Sì, ma uno si sente costretto poi alla fine a dire: vabbè, ok, sono omosessuale. Però evidentemente una vita di merda. Ma perché una vita di merda? Non ho capito perché lei psicologicamente perché è a disagio? Perché non mi sento io accettato bene in pace con me stesso quando sto in compagnia di un maschio, cioè questa è la cosa. Ma è mandato con una donna lei? Sì. Cioè è andato sia con... da quanto tempo è che non va con una donna? O ci va ogni tanto? Da due anni. E da due anni va solo con maschi? Vabbè, Marco, adesso non vogliamo fare una seduta qui, per carità. Però lei sta dicendo che sta cercando di curarsi. Sì, sì. Cioè, perché vorrebbe superare la sua omosessualità. Sì. Cioè, la sua attrazione per l'uomo la vorrebbe cancellare. Sì. Ma sì. Penso che sia dovuta... No, per carità, ma ognuno poi nella sua vita può fare quello che vuole. Grazie, Marco. Roberto da Trapani. Roberto da Trapani, buonasera. Roberto? Roberto? Vabbè. Mattia Piacenza. Sì, ciao, scusate, io penso che il ragazzo, quel povero ragazzo che si è suicidato a Roma, si è suicidato anche per colpa vostra, è una provocazione. Colpa nostra? Però, quale? Chi? Quale? Di chi? Senso, questo, il tema dell'omofobia, il tema dell'omosessualità, è un tema che è entrato in agenda, ne parlano pure i celesti, ne parlano anche pure al bar, ne parlano dei boaroni, eccetera, quindi mi metto anche nei panni di uno che non ha mai fatto coming out. E questo tema, ora, anche perché voi l'avete buttato in agenda tra i politici, tra tutto, fate venire fuori i mostri, i Tovanardi, eccetera, se ne parla dappertutto e uno a volte non fa fatica a tenere sta pressione, cioè nel suo paesino. Oh, è successo ma Roma, quale va bene. Pressione? Ma non è vero. Ma cioè, fa parte dell'agenda questo, se ne sta parlando in tutti i modi e questo non faccio fatica a comprendere la differenza di quello che il problema non è l'omofobia, se uno si ammazza il problema non può essere l'omofobia, perché non è che una società opprimente omofoba, dai certo. Su, io non ci credo a questa cosa, detto con tutto rispetto non ci credo. Agenda, grazie anche voi, grazie ma anche che voi, grazie a noi, grazie a noi che noi abbiamo tirato fuori le cose vere, parlando, le cose reali, esatto, abbiamo tirato fuori le cose reali. Michele da Treviso, c'è un nostro Michele da Treviso? Michele, vada. Pronto, no, volevo dire su Battistini. Sì. Sa Battistini quanto sangue di macellaio, di gente che, o di cacciatori che ha salvato delle vite, ma si rende conto di quello che dice? Vabbè, che quello butterebbe non vuole il sangue, butterebbe, qual è coerenza? Però è Battistini, cioè non è che stiamo parlando, non stiamo parlando di un, come dire, stiamo parlando di un signore che si chiama Battistini, che capito, anche la comunità animalista ha detto questo signore è un po' esagerato, stiamo parlando di un signore Battistini. Ma ho capito, ma se lo dite a un padre che ha salvato, come ha salvato mia figlia dalla leucemia, un cretino del genere, no? Ma che lei fa il cacciatore? Che cosa fa? Il macellaio? Ma il cacciatore? No, ma non faccio né il macellaio né il cacciatore, non mi piace né fare il macellaio, non so. Vabbè, ci dobbiamo sentire domani alle 18:30, ciao. Lei è sano di mente? Per adesso sì. Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché? Perché hanno meno ascoltatori. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Radio 24. La passione si sente.